un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Grazie David, a presto. Ti sei buttato già in piscina? Sentiamo direttore, dopo. No, adesso il sole sta tramontando. Fantastico. A presto. A presto. Un bacio dove vuoi. Ciao. Bacio, bacio, bacio, bacio. Vieni qui che ti abbraccio. Luca Telese da Alghero, mi stanno massacrando, Luca, per questo perché? Saluto di, per questo saluto di Parenzo. Baci ovunque. Baci dove vuoi, ha detto ieri Parenzo. Vabbè. Ma non c'era nulla di particolare, c'era semplicemente una manifestazione di affetto. Pronto? Allora. Io sono preoccupato per questo programma. Chi è preoccupato? Un tempo c'era l'onore, un tempo c'era l'idea della patria. Adesso che cosa c'è, Cruciati? Ti è piaciuto la scuola? Teresa, che state facendo? State facendo gossip, state facendo scandalismo. Oh gossip. Oh gossip. Ma che sei... Non c'è più la patria, non c'è più la famiglia, non c'è più niente. No, non si parla di cose serie, si parla di stronzate. Ma che fai ad Alghero? Non te l'ho ancora chiesto. Sei andato a trovare i tuoi amici della... dell'isola dei gas integrati? Non li incontri? I tuoi amici dell'isola dei gas... Non li ho ancora visti, ma saranno qui nell'area a controllare il territorio. Politica, politica, partiamo. E lo sputtanamento, olè. E lo sputtanamento, che cos'è? È guardare il suo balcone, che si sa che non è in casa, da tappi a fare una cosa, sul balcone c'è le rose. Te la ricordavi questa, Cocchi e Renato? Bellissima. Te la ricordavi. E così è un bel momento, olè. Senti Emilio Fede su Giancarlo Tulliani. Allora, garantisti come siamo, non facciamo una scelta di campo. Ho la vicenda di Monte Carlo, la famiglia Tulliani, il fratello di Alberto Tulliani, questo fratello che l'abbiamo visto nelle foto lavare una Ferrari, lavare non per conto d'altri, cioè non fare il lava macchine, non vorrei che si pensasse questo, no? La propria Ferrari. E attendiamo di capire tutti, perché l'opinione pubblica a questo punto si domanda che cosa sta succedendo e il perché non si arrivi ad una chiara chiarezza. Beh, la chiara chiarezza è fenomenale, Telese. Perché non si arriva alla chiara chiarezza? E poi lava la macchina sua. Barbareschi, Fini darà spiegazioni. Darà una sua spiegazione? Che cosa? Sarà suo diritto farlo, suo dovere, secondo come lo giustificherà lui. Mi auguro che le dia per forza, per se stesso e per tutti noi. Però i finiani sono divisi perché Raisi dice il caso Monte Carlo è solo una sciocchezza, sentite. La faccenda Monte Carlo, io credo che solamente in Italia si stiano tre settimane su una questione di questo tipo. Tra l'altro è stata aperta un'inchiesta, l'inchiesta farà luce, piena luce su questo, tutto per una sciocchezza che se ha valenza penale, c'è un'inchiesta in corso. Se non ce l'ha, penso che qualcuno si farà molto male. Punto. E adesso, dice sempre Raisi, toccherà ad Urso. Ci sono, da questo punto di vista, delle operazioni di chiliaraggio in corso che sono devastanti anche sul piano dei rapporti personali, della politica. Senza dubbio c'è stata, oggi ho visto anche Dago Spino, domani toccherà a Urso, credo. Va bene, il collegamento d'Alghero, Luca Telese che è in vacanza. Vogliamo dire qualcosa su che? Sul caso di Urso? Ah, sulla vicenda dell'appartamento. È incredibile che il berlusconismo nella sua fase, diciamo così, aggressiva, virale, poi tessa l'elogio del pauperismo. Se Urso si vuole comprare una casa con un mututo da 6.000 euro... Da 9.000, da 10.000, da 20.000, da quello no, che... No, lui dice sono 6.700 euro, dice che è la garanzia cade su di lui, sui suoi due figli che sono rimasti con lui dopo la separazione dalla moglie... E beh, se si vuole comprare una casa, se lo può permettere, lo vuole fare, saranno pure i cavoli suoi. No, assolutamente, sono d'accordo con te. D'altra parte non vedo cosa ci sia. Non è che dobbiamo essere tutti poveri tranne chi ha le ville. No, infatti hai ragione, uno si può comprare una casa come ha fatto, da una, da due, uno da un milione di euro, intestarla a chi vuole, fare pure un mutuo fino a 93 anni, intestato a lui, basta che ai figli, basta che poi abbia i quattrini. Per pagare, dov'è lo scandalo? Andiamo io e te da Verdini al credito cooperativo, che c'è il credito facile, e facciamoci fare un paio di milioni di euro di mutuo a testa. Forse a me a te, forse a me a te, a me a te ce compriamo uno strapuntino. Forse a me a te ce lo faceva almeno. Denis, chiama in diretta, dici se ce lo dai. Io do come credenziale Cruciani. Bella credenziale, allora. Vai sul sicuro. Senti, scusa, però perché parli di berlusconismo a proposito dell'affare Urso? L'affare Urso è stato tirato fuori ieri da Dago Spia, mi sembra, no? No, l'ha tirato fuori Dago Spia, ma subito i giornali di centrodestra, una serie, tanto sempre con quella, sono fatti bene i giornali di centrodestra, ma hanno questo difetto. Beh, oggi fatale. Effettivamente Beghis, nell'articolo di Beghis c'era un titolo e aprono un'intera pagina, perché se si può dare in culo a un Fignano vai lì e mordi. E calmi, no? Sì, come se perché il titolo di Libero oggi, uno dei titoli di Libero era insomma troppo per un viceministro avere un mutuo, scriveva Beghis, da 9.000, in realtà esatto. Pare che sia ma meno. Perché un viceministro, un dentista, anche un manovale, se vogliono farsi il mutuo gli danno i soldi? No, questa cosa di Urso francamente la trovo anch'io ma assurda. Anche il giornale ha fatto un titolo tutto perché non potevano perdere il boccone, ma il giornale sapeva già del mutuo di Urso, perché quando fece l'inchiesta sui ministri gliel'avevano chiesto, lui aveva risposto, quindi loro avevano tutti i dati, però il richiamo della foresta. Bene, 18:12. E lo sputanamento. Olè, collegamento con caro Luca, un ospite molto particolare. Collegamento con Calalzo di Cadore, Hotel La Ferrovia, dove si è consumato il compleanno di Tremonti. Buonasera Gino Mondin. Buonasera a voi. Come sta? Bene, piena forma. È andata via la gente da là, i politici sono andati via. È andata via, adesso abbiamo i nostri clienti. I nostri clienti normali. È meglio o peggio? Oh beh, più tranquillità c'è. Ma abbiamo goduto un paio di giorni di grande gloria, di grande movimento. Fa sempre piacere per paesi tranquilli come i nostri. Forse troppo ma tranquilli anche adesso, diciamo. Era quello col colbacco. È quello bello! Io sono quello col colbacco. Ma scusi, Mondin, qui siamo tutti rimasti basiti da questa ma foto. Come facevano? A parte il sudore, beh, a Calalzo sai, non è che faccia così caldo in realtà. Ma insomma, colbacco, il paltò dell'Armata Rossa. Dove l'ha preso sto colbacco e sto paltò dell'Armata Rossa? L'ha preso a Pechino, proprio cooperato originale lì a Pechino. Dunque, dell'armata cinese, dell'esercito cinese. Proprio. Sì, sì. E che l'ha preso a fare lei? Ma è stata tutta una storia. Parlo ancora di, penso, 20 anni fa. 20 anni fa. Parlando fra amici, qua si parlava, sa che il Cadore è parte del gelato. Molti cadorini, molti belunesi sono andati in Germania, in Olanda a aprire gelaterie e hanno fatto fortuna dentro da tanto. Qua una sera fra amici a cena c'era, fra i quali la ragazza di un dottore, di un professionista di Belluno, allora? E la sua ragazza che è cinese di Pechino. E parlando diceva, sa che in Cina non è, il gelato è poco sviluppato, è poco dato. Ma no, ma perché no. E allora lei è andato su ma in Cina. Ma lei da 20 anni che ha questo paltò nell'armadio? Lei ce l'ha da 20 anni questo paltò nell'armadio? Sì, ogni tanto. Ammazza, se le tiene bene. Quando c'è da far festa, questo paltò arriva dalla Cina, fa 20 anni in una baita del Cadore, esce fuori per vedere Tremonti. Pensa che shock. Dal punto di vista del cappotto, scusa, la sento poco lei, come al solito, problemi di comunicazione. No, lei la sento bene, l'altro senta, signore sento adesso bene. Miglioriamo. Senta, Mondin, mi spieghi una cosa, ma perché se ne è uscito l'altra sera a cena con sto cappotto? Qual è stato lo spunto? No, perché Tremonti sa che ce l'avevo, visto che c'erano giornalisti, fotografi, così, però sì, dell'allegria, eravamo in allegria e la mia presenza così ha fatto ridere, ecco. Ho capito, ma lei si è messo lì col pugno alzato? No, io col pugno sì, vabbè, così per scherzare, altro così che per scherzare. Lei è tutto tranne che comunista. Sì, no, io le dirò che da giovane ero socialista, io ero simpatico per Craxi, ero da quella parte e dopo, quando che è accaduto quello, ho avuto fiducia sulla Lega e adesso dico sono un leghista. Beh, certo, il consigliere della provincia di Belluno ospita Tremonti, Bossi e Calderoli. Vogliamo pure essere comunisti, Mondin, no? Ma io, guardi, non sono mai stato un politico radicato, io dialogo con tutti, tanto più ho una struttura pubblica, pertanto, guardi, se voglio dirle di più, sì. Forse 30 anni fa, quando facevo la festa dell'unità qui a Calalzo, che la facevano, sì. È venuto su Claudio Villa e compagnia, qua nessuno le dava, bisognava, lei sa bene che una volta per aprire un chiosco qualcosa bisognava avere l'iscrizione a REC. Sì. Ecco, e qua nessuno si prendeva la briga, e io... proprio alla festa dell'unità le firmavo, mi facevo da garante per la festa, perché avevo l'iscrizione REC, ecco. Tanto per dirle che non ho mai visto, non ho mai fatto una dipendenza. Senta, poi dopo il traffico ci racconta la telefonata con Berlusconi, vogliamo sapere anche cosa le ha detto sul sesso. Lei le ha fatto, no, al telefono ci ha parlato bene con Berlusconi l'altro giorno. Ai ai ai ai ai. Con il riflusso siamo tornati nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi. Va bene tutto anche se non funziona niente, ma c'è una smorfia sulla faccia della gente. Quando finisce la paura e lo sgomento, a chi si incazza io gli faccio un monumento. Ai ai ai ai ai, ai ai ai ai. Va bene, Luca, sai, Berlusconi, prima di entrare a questo famoso vertice che è ancora in corso del PDL, da cui dovrà uscire forse un documento, non so che cosa, ha incontrato un turista spagnolo fuori da Palazzo Grazioli. Un turista spagnolo, e senti cosa gli ha detto. Mucho gusto, mucho gusto, presidente. Estamos a la cabeza della civilizzazione. Muy grande, lo siento, complimenti. Bene anche il cacio con le pere. Estamos a la cabeza della civilizzazione. Siamo alla testa della civilizzazione, della civiltà, anzi. Beh, sai che naturalmente molte persone sono sbizzarrite a cercare di capire ma cosa significa una cosa di questo tipo. Perché Berlusconi di fronte a un turista spagnolo se ne è uscito in questo modo? Pare che sia una frase pronunciata da George Bush prima della guerra in Afghanistan. Ah, meno male, temevo Franco. Vabbè, adesso addirittura Franco temevi, che esagerato. Allora, dato che siamo in tema, perché siamo in collegamento con Gino Mondin, Lega Nord, titolare dell'hotel La Ferrovia, Calalzo di Cadore, dove sono stati ospiti Tremonti, Calderoli, aveva qualche cane randagio, qualche cane particolare, qualche animale. Calderoli, no, non si è portato dietro nessuno, no? Nessuno, li lascia in villa i cani. I cani li lascia in villa, così siamo contenti. Bossi, al voto al più presto, inizio dicembre. Certo che lui è il 20 giugno, l'ha detto? Se diamo il voto guadagniamo noi. Vedi la voce della verità, Telese, qui Mondin, se si va al voto guadagniamo. Mondin lo voglio, col bacco. Si mette al vado a far campagna col bacco, così prendo da una parte e anche dall'altra. Ma mica è scemo. Non dica così, che questo programma sta diventando sessualmente molto confuso. Quelli che baciano, quelli che fanno, lei che pensa dell'amore contro natura? Lei che pensa degli omosessuali, Mondin? Ah no, io sono contro gli omosessuali. No, come? Socialista, moderno, la civilizzazione, la cabeza. No, non sono moderno, io sono un po' la vecchia. Io ho 71 anni e rispetto la natura e vado dritto con quella. Hai capito? quando riesco cerco di farmi ancora valere. A 71 anni, Non è così facile, provate voi. Che... no, noi ancora non ci siamo arrivati, però. No, senta, Mondine, però lei dice io sono natura, vabbè, la natura, per carità, io sono etero, ma insomma li rispetta gli omosessuali, sì, non è che... ma io lo rispetto, è un'attività pubblica, pertanto se vengono, certamente che non... Come un'attività pubblica? Che vuol dire un'attività pubblica? No, lei un ristorante, io devo accogliere tutti, non posso rifiutare di dare un pranzo, di dare una camera, se uno... almeno lo dirà, perché mi vede che... Almeno questo, dice. Senta, ma questa cosa delle elezioni, no? Bossi l'ha detta chiaramente, no? Il più presto possibile. No? Mondini, il più presto possibile. Se dovesse cadere il governo si darà elezioni, è normale. Così voi, me lo ripete, così voi prendete un sacco di voti, no? Eh, e ne prendiamo di più senz'altro. Certo. C'è anche Capezzone, Telese, ti faccio sentire Capezzone. No, no. Capezzone no. Sì, non Capezzone sì, dire. Capezzone sì. Senti. No, Capezzone no. Sì, la gran sì, parte degli Capezzone, italiani sì. Sta con Silvio Berlusconi e soprattutto la gran parte degli italiani si è scocciata, io credo, direttore, delle chiacchiere, dei vecchi giochi, delle troppe parole, delle manovre di palazzo. Delle due l'una, o ai primi di settembre, sui punti che il Presidente del Consiglio presenterà, ci sarà un impegno vero, ma senza inganni, senza retropensieri da parte di tutti, oppure sarà giusto ridare la parola agli elettori, perché c'è un solo governo davvero legittimato, che è quello scelto dalla gente. Ti voglio fare ancora più male, caro Luca, e ti faccio ascoltare una dissertazione molto dotta di Emilio Fede sul governo balneare e governo di Natale. Senti. Certo, qui non si tratta di essere voci, governo alternativo, governo tecnico, governo balneare, governo di Natale, panettone di Natale e quant'altro sia. Qui c'è un governo legittimato dalla grande maggioranza degli elettori a guidare il paese, allora o si sta dentro o si sta fuori. A chi si incazza io gli faccio un monumento. Va bene, Telese, vogliamo chiedere a Mondino di questa benedetta telefonata a Berlusconi? Chiediamo di questa telefonata a Berlusconi. Mondin, allora, com'è nata questa cosa? Ah, niente, erano qua sempre a tavola e... Chi c'era a tavola innanzitutto? Chi c'era? Sì, solito Bossi, Berlusconi e Tremonti. No, Berlusconi non c'era. Calderoli. No, Bossi, Tremonti e Calderoli, scusa. Allora? Ecco. E loro, non so chi ha chiamato, solo loro, l'avevo passato dopo, è già la seconda volta che io parlo con Berlusconi, mi avevano passato, io ho approfittato di questo, perché io sinceramente Berlusconi lo stimo, perché è un uomo che... Da poco, da niente, ha fatto un impero. Io la gente che lavora la stimo tutta, prima di tutto. Io sono da 70 anni con un lavoratore che fa 15 ore al giorno. Sì, allora? Però, vabbè, lei lo stima. Dunque, ha preso il telefono e che gli ha detto? Me l'ha passato, io l'ho salutato e gli ho detto, allora dico, avevo già, viene una volta anche fra le montagne, perché mi risulta che non sia mai stato né a Cortina né in provincia di Belluno. Che sia mai venuto. Viene una volta anche fra le montagne, non da sempre al mare. Così. Lì a Porto Rotondo, in quella villa, lasciamo perdere, veniamo tutti a Calalzo, altro che Villa Certosa. Magari noi abbiamo bisogno qua, guardi che turismo langue qua poi in montagna. Vabbè, insomma, e Berlusconi cosa ha risposto? E Berlusconi mi ha detto, dammi 3 giorni di tempo, 2 giorni di tempo e dopo ti saprò dire. Però lei gli ha detto, o vieni stavolta oppure basta. No, io le ho detto, già, perché lui mi ha invitato, dico, è la seconda volta che ti invito, le ho detto, no, ma che, come mi permetto di dire, vieni stavolta, ehi. Vabbè, perché Berlusconi è uno cui si può parlare tranquillamente, mica. Sì, ma tranquillamente, ma è un personaggio che è richiesto da... Senta, ma è vero che lei in dialetto ha detto a Berlusconi una massima sul sesso e il denaro? Ma io parlo che dialetto veneto. Com'è questa massima? Abbiamo parlato in 3-4-5 minuti si dicono tante cose. Ho capito, ma questa cosa sul sesso e denaro in dialetto me la dice o no? Ah, Mondino, me la dica, su, qui siamo tra amici. Ma è una battuta. Qual è questa battuta? Ecco, allora, se metti un soldo nel cassetto, di cassetti dopo lo trovi. Se perdi una chiavata, quella non la trovi più, non la fai più quella. Vabbè, quello non bisogna perdere più così. Ho capito. È la vecchia massima, caro Luca, qual è questa? Ogni lasciata è persa. Ogni lasciata è persa, perciò se metti i soldi nel cassetto domani li trovi, ma il resto no. Tanto più. Ma questo è in italiano, però me lo dica in dialetto, questo è in italiano. Sì, in no, dialetto com'è? Via, in dialetto com'è? Se te metti via i schei sul cassetto, un domani ti. Ma se tu perdi la ciabatta, ricorda che non te la fa più. E Berlusconi come ha risposto? Berlusconi ha fatto una risata e così adesso. Ha detto sì, quanto ha ragione lei, Mondin, quanto ha ragione. Si parla sempre un po' di questioni istituzionali, C'erano i tre saggi! Ma com'è? Non si parlava di politica, Berlusconi, si parlava. Abbiamo capito. Di amichevole, così di Navarre. Avevo capito. Abbiamo capito. Senta un po', Mondin, ma voglio. Telese, voglio. Ma è sboccato. Senti, Luca, vogliamo chiedere a Mondin se c'era Renzo Bossi, perché questo pure è interessante, dato che c'era questo summit. C'era Renzo? Renzo è stato sì una sera anche lui. Che, con solo una sera. che impressione le fa Renzo Bossi? Lei che è uno che ha 70 anni, questo ragazzino, guarda, 50 anni di differenza. Nei miei confronti è educatissimo, una persona educata, molto umile, cioè giovane, ha bisogno di farsi, ecco, per vivere in mezzo a questi volponi che circondano. Però qualcuno, Mondin, lei che ha 70 anni, qualcuno già dice che il Trota è l'erede di Bossi, il futuro della Lega, adesso mi sembra un po' troppo pure per lei. Ma mi sembra che sia un po' prematuro, ecco, ma molto prematuro. Ecco. Telese, Mondin, la voce della verità. Però se lui gli dà il colbacco, già fa un passo avanti, diventa più credibile. Mondin, perché non ha passato il colbacco a Renzo Bossi? No, non c'era quella non sera. Non c'era quella sera là. No, ma no. È vero che lei ha un cartello, sono un albergatore armato? Davanti, sì. Com'è questo per cartello? Per difendere, è scritto ben chiaro sotto io, albergatore armato, per difendere i clienti e i collaboratori. A Calalzo, e che succede a Calalzo? Mondino. No, niente, è un paese abbastanza tranquillo. E appunto, ma adesso... lei che si arma a fare? Che cosa hai innanzitutto? Pistola, fucile? Prima che vengono su, prima è meglio avvisarli. Uomo avvisato è mezzo salvato. Dice qualche malintenzionato, magari extracomunitario, ecco. Qualche rom, no? Qualche rom. Trova pane per i suoi denti. Qualche rom di troppo, no? Beh, direi che anche quelli sì. Beh, io rispetto tutti, ma rispetto la gente che lavora. Il mio principio è pane e lavoro. E guadagnarselo e non che venga. Io sono partito a 7 anni via da casa, mi hanno mandato perché purtroppo senza papà, perciò e da niente sono riuscito a farmi qualcosa. Caro Luca, Luca, questo Mondino c'ha due palle così, mica è... Ma io vorrei palle già candidare ancora, ma non possiamo farlo ministro lì al posto di Brancher, che mi sembra molto più competente. Attuazione del programma. Ma Brancher non è più ministro, adesso lascia bene. Forse no, poi. Appunto, ma quel anche ministro Brancher è poverino, che lui era un amico. È amico di Brancher, aspetta Luca, fermati, amico di Brancher, ma dove è finito? Certo, andava pure lui nel Cadore. È belunese lui. Mondin, dove è finito? Lo rispettiamo sempre, anche se l'avrà atteso qualche sgambetto, vedrà che... adesso qualche stupidaggine l'ha fatta pure lui, per non dire stronzata. Ma vedrà che torna a galla, Brancher è un duro. Luca, hai capito? Torna a galla anche Brancher dopo Scaglioni. Senz'altro. Senta, ma mi dice una cosa, Mondin. Innanzitutto mi deve ridire in Veneto. Adesso qui abbiamo tanti veneti che sono venuti dietro il vetro, per cui mi deve ridire in Veneto quello che ha detto a Berlusconi, quello degli sgay, la roba là della Ma gliel'ho già detto prima. No, me la ridice in Veneto. Qualcuno non l'ha ascoltata qui, a grande richiesta. Qualcuno non è riuscito ad ascoltare bene. Allora me la ridica in Veneto. In Veneto. Ho vita. Se te mette via di sgay sul cassetto, un domani ti cata. Se te perde una ciavava, non te la fa più. Capito, è questa, ragazzi, queste sono tormentone della settimana. Queste sono sono una cosa, delle cose di una serietà assoluta. Cioè, ci dica questa è storia, non A voglia, soprattutto la risata di Berlusconi. Secondo me Berlusconi l'ha risposto così, guardi. Mondin, lei ha ragione da vendere o sbaglio? Magari Berlusconi avesse stima di me. Io spero solo di poterlo conoscere. L'avevo visto una volta personalmente, l'ho salutato, ricordo a Genova, sì, a un convegno dei Federalberghi, ecco, per dire, ma ancora anche là, 20 anni fa. Se ho la fortuna che venga su in Cadore, che venga qui, sì, alla festa che facciamo sabato qui a Valesella. Mi sento realizzato di essere riuscito a portare Berlusconi in Cadore. In Cadore. Senta, ma la cena pare che fosse a base di, che c'era? Risotto alle rane? Sì. Risotto alle rane, poi? Rane fritte. Buon formaggio qua del posto, formaggio qua del Comerico. Poi? Dopo un dolce al cioccolato e dopo le solite buone grappe, naturalmente. Grappe fatte da me, grappe a volontà, insomma. Grappe al pungitopo e ai fiori da caccia. Lei sa cos'è il pungitopo? No, assolutamente no, io non bevo, figuriamoci. No, non importa, ma tu lo trova. Cos'è il pungitopo? È quella pianta con quelle fogliolette che pungono, che a Natale si vedono, che le vendono anche per le fiorerie come punti secchi. E allora? Sai perché le chiamano pungitopo? Perché? Perché una volta i contadini, quando mettevano il formaggio e i salami in cantina e appesi ai travi del soffitto, i topi venivano giù per il filo e andavano a mangiarle. Allora mettevano questa pianta, queste foglie contrarie, come che il topo sedeva, si pungeva e tornava indietro. E così hanno dato il nome di pungitopo. Senta, Mondin, io starei con lei a parlare qui ore ed ore. La devo salutare, la ringrazio. Se ha occasione, buona di passare serata. Per sarà un a Calalzo, poter, magari. Poterlo ospitare per Calalzo. Molto gentile, a presto. Grazie, buona serata. E siamo qui alle 18.33, 800 24 00 24, da Calalzo di Cadore passiamo ai titoli TG2. In corso dall'ora di pranzo il vertice del PDL con Berlusconi sull'agenda di governo e sui rapporti con i finiani. Intanto il cardinal Bagnasco, presidente dei Vescovi, dice no al federalismo che disgrega. L'annuncio del segretario di Stato americano Hillary Clinton, la ripresa dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi il 2 settembre. Netanyahu e Abu Mazen vedranno Obama alla Casa Bianca. La mafia avrebbe utilizzato anche SMS alla trasmissione Quelli che il calcio per comunicare con i boss detenuti in regime di carcere duro. Ecatombe di balene su una spiaggia della Nuova Zelanda, 73 si sono arenate, 60 sono morte, si lotta contro il tempo per salvare le 13 ancora vive. Studio aperto. Vertice del PDL con Berlusconi, la riunione a Palazzo Grazioli è ancora in corso, atteso un documento in 4 punti sul quale il governo potrebbe chiedere la fiducia, aggiornamenti in diretta. È successo ancora, la lite per la separazione, poi la tragedia, Ardea, litorale romano, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e poi si è sparato, in casa c'erano 2 dei 5 figli della coppia. SMS a quelli del calcio, non solo dedico complimenti ma messaggi in codice dei boss ai detenuti del 41 bis. Il ministro Alfano, l'episodio del 2009, abbiamo preso provvedimenti. Notti di alcol e droga, triplicati i casi di stupro tra minorenni. L'allarme del centro antiviolenza dell'ospedale Mangiagalli di Milano. I ragazzi bevono fino a stordirsi e spesso perdono il controllo. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sì, no, no, non mi interessa. Come mai? Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non c'era posso... lei una intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, no, no, no, non le dico il mio... Non lo voglio neanche neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così. Lo schema mentale, che ha detto? Mentale, sì. Questo lo schema mentale di Grillo, fantastico. C'ho qui una medaglia sul petto. Alessandro da Milano, buonasera. Sì, pronto? Dica. Pronto, sì, buonasera, sono Alessandro da Milano, un saluto a lei e ai radioascoltatori. Dunque, io innanzitutto voglio dire che questa è una trasmissione straordinaria. È l'unica trasmissione che farei ascoltare a mio figlio, perché è veramente fantastica. È Quanti anni ha suo figlio? Costruttiva, 11 anni. È costruttiva, è fantastica. Magari si becca qualche parolaccia di troppo ogni tanto. Vabbè, ci sta anche. Capirà quante parolacce si quante becca. Quante ne sento ogni giorno, dice lei, no? Senti, io volevo dire una cosa. Finalmente si sono liberati di quel peso morto. E chi è il peso morto? Di Fini. Di questo uomo che difende solo le pubbliche amministrazioni, difende solo i clandestini, solo questa gente qua. Solo i clandestini, mi sembra esagerato. Sì, basta, ma guarda, io dico una cosa, secondo me Silvio Berlusconi da quando è arrivato in politica ha sbagliato solo una cosa, che quando è arrivato in politica avrebbe dovuto unire Forza Italia solo con la Lega Nord, non avrebbe preso il potere allora. Guardi che la Lega non vuole però, c'è questo piccolo particolare. Ma quando? Adesso? No, ma non vuole la Lega. Stare con Berlusconi? Ma no, stare magari sì, ma fondersi non ci pensa nemmeno lontanamente. No, no, no, no, non fondersi. Faceva Forza Italia e la Lega Nord, due movimenti ben separati, però si univa solo con loro. Allora non avrebbe preso il potere nel 94, ma adesso avrebbe la maggioranza assoluta. Vabbè, insomma, secondo lei Berlusconi si è liberato, a parte che non se n'è ancora liberato totalmente. Ma se comunque, ne libererà, meno male. Lei dice, del peso morto, lei Fini lo definisce un peso morto. È un peso morto. Cioè elettoralmente non vale niente, per esempio, secondo lei? No, non è che non vale niente. Elettoralmente, elettoralmente, vale secondo lei? Sì, può valere, certo, può valere qualcosa, ma sicuramente dal suo comportamento ha perso, perché la gente non è stupida. E alla fine le persone cambiano nei modi di votare, quindi voglio dire, la gente non è così stupida da andare a votare una persona che non fa comunque l'interesse del paese. Va bene, grazie. Mario da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione. Mario, chiuda quella maledetta radio che sentiamo il ritorno. Sì, sì, mi perdoni, l'ho staccato adesso, che sto in macchina. Dunque, no, innanzitutto un complimento a Luca Telese. Che fa lei, tassista, che fa? Nel suo tempo ho letto praticamente... Mario, che fa? Che mestiere fa? Che mestiere fa lei, tassista? Guardi, io sono funzionario della Polizia Municipale di Roma. Ah, ok. E la seguo attentamente... È un pizzardone, i famosi pizzardoni romani. Esatto, giustissimo, giustissimo. è vero. E allora? Insomma, le dicevo che praticamente no, volevo ringraziare Deleuze per il libro che ha scritto Cuori Neri a suo tempo, che diciamo mi ha fatto rivivere diciamo un periodo della mia vita in modo molto perché dettagliato. Lei era, mi sa, un bel fascista, lei mi sa che era un bel fascistone. No, una persona abbastanza diciamo destra, misurata, più sul sociale, francamente. Infatti ritorno diciamo di contraltare rispetto al diciamo all'ascoltatore che mi ha preceduto. Io francamente devo dire la verità, non riesco a capire, la cosa mi manda veramente il sangue al cervello, perché che io definisco il sultano di Arcore non possa accettare una minoranza all'interno del proprio partito che la possa pensare diversamente. A me questa cosa mi sta mandando in bestia, perché francamente, cioè, avere una minoranza che sta all'interno di un proprio partito che possa fare diciamo un discorso costruttivo o insomma un qualcosa che possa diciamo portare valore al partito, non riesco a capire. Aspetti un attimo, che qua mi chiedono pure informazioni. Dica. Guardi, devo andare prima al raccordo GRA e poi troverà proprio l'indicazione. No, voglio... cioè, allora praticamente no, capito, scusi Mario, scusi un attimo, si fermi, si blocchi un attimo. Ma in questo momento dove si trova lei, no, per curiosità? Guardi, io mi trovo sulla Pontina. Sulla Pontina? Mi sono fermato appositamente per poter, no, diciamo, per poter parlare con no, lei. No, certo, sulla Pontina è sceso dalla macchina, però c'ha la divisa addosso, no? O era in macchina? Ritorno dal mare, Cruciani. Ritorno dal mare. Okay, perché le hanno chiesto un'informazione? C'era la divisa, non è che le hanno chiesto un'informazione? No, così. Giuro, no, un po' in canottiera. Forse a me succede spesso, ma avranno letto visivamente. Che la guardano in faccia e dicono: eccolo, questo è un vigile urbano. No, mi scusi perché. No, ecco tutto qua, e qua si è considerato. No, però non me la, racconta giusta. Mario, non me la racconta giusta. Lei è in servizio, su, mi dica la verità. No, sto sulla Pontina, sto in ferie. Non me la racconta. Guarda, giusta lei. Non è che adesso per caso abbiamo incrociato uno che le chiede un'informazione, è impossibile. Mi creda, peccato, guardi, sto al chilometro, circa credo al 15° chilometro, altezza della di Pomezia. No, ecco, volevo chiudere con una battuta, visto e considerare che condivide la mia stessa squadra del cuore. Vabbè, Mario, Claudio Lotito. Vabbè. Qualche risata la faremo. Non lo so, ma vorrei ospitarlo, vorrei ospitarlo, ma resiste. Grazie. Franco, provincia di Pistoia, buonasera. Franco, buonasera. Dica. Saluto lei e tutti i radioascoltatori. Pronto? Sì, la sento. Allora, volevo dire, siccome ho sentito che avete mandato la registrazione di Fede che dice di far chiarezza a Fini, sì, vero? Dovrebbe far chiarezza a Fini, ma come mai non ha mai chiesto chiarezza al suo principale per quando si è avvalso del diritto di non rispondere? Caro Franco, lei prende, lei prende seriamente queste cose di Fede? Come le prendo seriamente? Per forza. Ma noi la prendiamo sul ridere, bisogna prendere seriamente quello che dice Fede. Però io la prendo anche sul ridere, però allora io sono un fedele ascoltatore, tant'è vero che qualche volta la sento anche due volte. E allora? Alle 6:30. Che vede che ho un'ammirazione per lei. Però qualche volta faccia anche approfondisca i temi di Berlusconi, sulla cosa personale. Ma noi parliamo ogni giorno di Berlusconi. Ma come ha fatto i quattrini? Ma chi se ne frega come ha fatto i quattrini? Come? A me di come ha fatto i quattrini Berlusconi per 30 anni fa, 40 anni fa, le devo dire la sincera verità, non me ne può fregare di meno, non me ne frega niente. È la questione Mondadori, non si approfondisce. No, la questione Mondadori è diversa, che c'entra? Non è questione come ha fatto i soldi come ha fatto i soldi Berlusconi, giorni. Interessa a Telese. Fate tutti i giorni trasmissioni su Fini, su una cosa che poi non sono soldi pubblici. Sì, ma abbiamo parlato pure ieri. Guardi, Gabbia, ieri abbiamo parlato anche della Mondadori con Luca. Ma è una vicenda complicata, bisogna spiegare. Bisogna spiegare tante cose. Telese, aiutami tu, so che non mi aiuti su questo. No, non ti aiuto neanche morto. Mi piace che chiamino i finiani, che si facciano sentire. Ma quello non è finiano, che ne sai che è finiano, Franco, la provincia di Pistoia? Come si capisce? Lei è finiano, Franco? No, sono di centro-sinistra. È di centro-sinistra, Franco. No, infiltrato. Ex repubblicano. Ma ex repubblicano, un mito. Ma il Partito Democratico è sparito, Telese, è sparito. Bersani dov'è? Ah, che fai? Dicono che è in vacanza. Ma lui anche quando c'è è come se non ci fosse. Non ti fare chiamare troppo da Enrico. adesso ti devo presentare un personaggio, però. Ti devo presentare un personaggio eccezionale che è stato con noi ieri sera, ti faccio ascoltare brevemente quello che ha detto. occidentale è giusto che sia punita, perché è una cosa effettivamente che attira castighi dal cielo ed è completamente contraria all'ordine naturale oltre che tradizionale. Un tempo c'era anche il rogo per questa cosa. Noi abbiamo perso l'idea dell'immensa gravità che questo tipo di pratica comporta. Penale, ma è evidente che una pratica aberrante va punita, questo è talmente logico, può andare dalla multa, va punito anche l'adulterio, quindi figuriamoci la sodomia. Per esempio l'adulterio secondo me va anche punito con un po' di galera, è talmente evidente, insomma è un attentato alla famiglia, la pratica sodomitica pure, evidentemente, questo non c'è dubbio. Ammazzano alla grande questi fra di loro, fra omosessuali, fra sodomiti, fra uranisti, come devo dirgli? Non lo so io, perché il tipo di relazione, se non un tipo di relazione pervertita e quindi come tale anche ad alto rischio di instabilità, comporta conseguenze. E poi c'è un aspetto demoniaco che non va trascurato. Le donne che ruolo hanno? Stanno al loro posto, hanno la famiglia, gli affetti, i loro amori, lasciamoli nell'ambito privato degli affetti. Cioè il lavoro, le donne va bene? No, sono contrarissimo, naturalmente, a salvo casi eccezionali, cioè casi ad esempio in cui lavora insieme col marito. In genere hanno un compito che è legato agli affetti familiari. Telese, hai sentito? Ma è finto, è un fumetto, non esiste questo. Sei tu con una voce contraffatta. Invece eccolo qui, Ruggero. Come conoscerla questa persona? Come la vorrebbe conoscere? Eccolo qui, è Telese. Appunto, no, non quella persona di Telese. Chi? Questa persona che è tenuta prima. Mi sono piaciuti quei discorsi che ha fatto. È una persona molto interessante. Ma quali? Delle quali? Idee molto, ma è lei, molto Ruggero, valide. È lei? Sì, è certo, è ovvio. Lei, presidente di Sacrum Imperium. Ben trovato, come sta Cruciani? Non c'è male. Senta, lei ha detto delle follie assolute. Io ci ho pensato la notte, non ci ho dormito quasi sulle cose che ha detto. Cioè, lei praticamente è talmente politicamente corretto, Cruciani, che quando uno afferma una cosa di assoluta elementare buonsenso. E quale sarebbe il buonsenso? Il rogo e le pene detentive per gli adulti, per gli adulteri, per i sodomiti. Secondo lei in passato erano scemi invece. Cioè, è arrivato lei col pensiero politicamente corretto. Ma il passato è passato! No, il passato è passato, il passato. L'inquisizione. Cioè voglio dire, siete degli intelligentoni terrificanti, i geni dell'umanità siete voi, che avete scoperto queste cose che invece erano cose perfette, buonissime. Cioè noi abbiamo scoperto la tolleranza, noi abbiamo scoperto la tolleranza invece... Quella tolleranza, cioè che si dice che è relativismo, cioè che va bene tutto, cioè dove tutte le vacche sono nere la notte, come dice Hegel. Ho capito che lei finge splendidamente, lei è la classica persona che dice tutte quelle cose con un po' di confusione, mettendo insieme la sodomia e l'onanismo che non ci azzeccano niente uno con l'altro. Riguardo, l'onanismo è venuto fuori per niente. Forse va Ruggero, stia zitto. Corre sulla macchina e se ne va a trans, su, è simpatico per questo. No, guarda, io la ringrazio della simpatia, Teresa. Ho preso anche un suo libro, spero di non dovermene pentire, che ha Cuori Neri, per cui diciamo... Ma compri quello nuovo, no quello vecchio, quello nuovo vecchio. Ma no, Cuori Neri è bellissimo, solo che lui sta scherzando, non ci credo. No, io non ci credo. Ruggero, scusi un attimo, secondo la teoria Telese è questa, molto semplice. Ma non senti come ironico nella voce. Ruggero, la teoria Telese è molto semplice, lei dice quelle cose, in realtà poi va a trans, però ne parliamo tra un attimo dopo il traffico. Luca, non mettere giù che ti uccido, stasera, ti uccido. Siamo qui con Maurizio Ruggero, presidente di Sacrum Imperium. In quanti siete a Sacrum Imperium, Ruggero? 3, 4, 5, quanti siete? Beh, io penso che se lei alluda a quelli che condividono queste idee, guardi che c'è la stragrande maggioranza in questo paese, forse vivete nei palazzi chiusi del giornalismo o del politicamente corretto. L'ho visto tante volte questo, negli studi televisivi si ragiona in maniera completamente differente che ai supermercati. Cioè, secondo un giro al supermercato. Secondo lei, quello che lei sta sostenendo, eccetera, è condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani? Io sostengo che la più gran parte degli italiani è contraria alla pratica omosessuale. Poi se lei mi parla della questione delle sanzioni... No, ma lei non dice solo questo, lei non dice solo questo, lei dice che bisogna mettere sanzioni penali. Allora, un tempo tutti coloro che erano ben pensanti avrebbero seguito questa cosa. Può darsi che su questo punto, può darsi, non lo so, che su questo punto la maggioranza delle persone non la pensi così. A parte che a me di cosa pensa la maggioranza non interessa non nulla. Non gliene frega però niente. Sul fatto, lei sa che non sono democratico, grazie a Dio, per cui... Però dico, ecco, sul fatto che la più gran parte delle persone... Cioè lei che cos'è? Monarchico? Cos'è? Ruggero, cos'è? Monarchico? La pratica sodomitica e la sua legalizzazione non c'è dubbio. Ma lei è monarchico? Cos'è? Certo sono ma monarchico, non è illegale la pratica sodomitica, scusi. Non siamo per l'impero. Telese, che dici? Ruggero, un attimo. Sta dicendo la pratica sodomitica e la sua legalizzazione. non è illegale la pratica sodomitica, e voglio dirle che apprezzo molto la sua ironia, perché lei è riuscita a ingannare Cruciani. Le ripeto, lei è uno che splendidamente fa questi discorsi, poi la sera si infila in un'auto con i fianchi devo deluderla, guardi, va a visitare le periferie più ricche di sesso. Non troverà, come dire, nel retro della mia macchina qualche oggetto sodomitico o pratiche di questo genere. Devo deluderla profondamente. Capisco sia un dolore per voi sapere che ci sono persone che non sacrificano, come posso dire, le idee alla carriera e al potenziamento corretto per ragioni di interesse personale. Ma sì, esistono anche queste persone. Senta un attimo, ma ci sono dei politici vicini alla sua associazione, Ruggero? Questo mi incuriosisce. Guardi, all'associazione dipende. Se lei intende come mondo tradizionalista, beh, il mondo tradizionalista ha sempre avuto legami con varie persone. No, questa posizione di Sacrum Imperium, che è un'associazione di cattolici tradizionalisti, ha qualche politico vicino, qualche politico amico alle sue posizioni? Chi c'è? Di politici ne abbiamo, io ne conosco tanti. Ma lei conosco, che condividono, qualcuno, che condividono le sue idee. Sì, ma io le dico, se lei dice che se esistono dei politici che hanno simpatia tradizionalista, le dico di sì. Che si spingano fino a essere così diretto e aperto come Ruggero, può darsi di no, però in privato direbbero probabilmente le stesse cose. E per esempio, chi è? Per esempio chi c'è? Siamo in pubblico una cosa, in privato un'altra. Vabbè, d'accordo, ma per esempio chi c'è? Un politico vicino alle sue posizioni, chi c'è? Ma io per esempio vedo adesso, parlo adesso di, non voglio coinvolgerlo su quello che sono tutti i particolari che abbiamo detto prima, ma per esempio sicuramente un europarlamentare come Lorenzo Fontana, che è un caro amico del sottoscritto, viene sempre alla messa latina antica di Verona, simpatia per il mondo tradizionalista, e viene dalla Lega, ma tanti altri, voglio dire. Ma chi è? Luca, lo conosci questo qua? Chi è? No, no, se Luca non lo conosce perché avrà amicizie più importanti. Amicizie sodomitiche? Non lo so, ha detto lei, spero di no per lui. Ah, quindi lei vuole insinuare che io ho amicizie sodomitiche, ma si mette sempre peggio. No, questo è Cruciani che l'ha detto, io l'ho detto io. No, ma lei ha detto, l'ha detto lei, l'ha messo in bocca a lui, non faccia scherzi. Ruggero, senta una cosa, Cruciani, ma il concerto di... Non diffami il povero Telese. Io. No, ma chi lo vuole diffamare, figuri. Il vescovo... Mai voi considerate infamante la pratica sodomitica? No, io non la considero affatto infamante. Lei ha detto infamare. Io non ho detto nessuna pratica infamante. No, perché lei ha detto... Vede, quando io ho detto non diffami questa Telese per queste cose, lei ovviamente con un riflesso condizionato che deriva dalla morale naturale subito ha considerato negativamente la cosa, e anche Telese in qualche modo si è subito sganciato. È ovvio che sia così, perché la morale naturale è così. Ma voi invece siete gli stessi che poi magari siete favorevoli agli omosessuali. Allora decidiamoci, o la cosa è buona o è cattiva. Ma il problema non è essere favorevoli o no, Ruggero, esiste, punto. Non è il fatto che esista non è buono, anche i crimini esistono. No, ma ho capito, Cruciani. Che significa? Anche i ladri esistono, anche gli assassini, anche gli stupratori. Cioè, secondo lei gli omosessuali, anche i marioli esistono, secondo lei, per questo dice che fanno secondo bene, lei insomma, gli omosessuali sono paragonabili a chi, per esempio? È un vizio contro natura, lei sa che le rinfresco il catechismo, che ho l'impressione che sia un po' arrugginoso. Abbastanza, arrugginito, diciamo, sì, arrugginito. Ecco, il ricordo è un po' arrugginoso. Allora lei si ricorda che fra i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, sì, tecnicamente si chiamano così, c'è l'omicidio volontario, sì, c'è frodare la mercé degli operai, c'è opprimere il popolo, questo è interessante anche per l'esperienza totalitaria della democrazia moderna, e da ultimo c'è il peccato impuro contro natura. Quindi questi sono i quattro peccati: omicidio, frodare la mercé degli operai, opprimere il popolo e il peccato impuro contro natura, che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ti rende conto del problema o no? Sì, è un problema. Ah, meno male. È un problema. No, non me ne rendo conto. Un raggio di arcobaleno, un raggio di sole nella mente di Cruciani. Mi fa piacere. Ma quando mai, lei si è sbagliato? Io non lo considero affatto un problema. È sempre in tenebra lei. Vabbè. No. Senta, ma Telese, sei basito? Io sono ammirato. Perché lo sa che dietro... La teoria Telese è questa, Ruggero. Diciamo la verità. La teoria Telese è questa. È scritto. Ruggero dice queste cose e la notte va al trans, questa è la realtà. Sì, certo, come no. Vi infilate in quelle macchine scure, chiedete le tariffe, rimanete avvinti dalla notte e poi dopo pubblicamente disprezzate. No, guardi Telese, io dico una cosa invece, no, ma sa perché ha bisogno di affermare la propria identità negando quella degli altri. Ma non è vero. Evidentemente c'è un problema, no? Senta, in testa continuamente. Ma di Vendola cosa pensa lei di Vendola? Mi dica qualcosa di Vendola. Penso male, cosa posso pensare? E perché pensa male? Pensare bene di un sodomita conclamato che sta a presidente della regione Puglia? Non è possibile pensarne bene, è ovvio, no? Te lei se reagisci, io non so più che dire. Ma lei questa ossessione sessuale quando le è venuta? Cioè perché le dispiace tanto quello che gli altri fanno nei loro letti? Usiamo gli effetti freudiani, no? Evochiamo categorie freudiane. No, però ha ragione, cioè, lei ha un po' un'ossessione, lei ha un po' un'ossessione. No, non sempre che dice sodomiti con due parole. Per me parlerei molto più volentieri, che so, della rivoluzione francese o della... Ho capito, ma lei dice la parola sodomita ogni due per tre, Ruggero. Bella, perché sodomita è la parola tecnica. E siccome voi invece volete usare parole politicamente corrette, come gay per esempio vuol dire felice, che non significa nulla, e invece la parola tecnica è sodomita, è giusto riportare le cose al loro valore. Cioè, quindi anche lei vede pendola in una foto, le viene messa sodomita e pensa di essere sano. Un attimo, Ruggero, risponda un attimo a Telese. Telese, che dici? Vede vendola? Lui vede vendola in una foto, gli viene in mente sodomita e pensa di essere sano. No, io quando vedo non è normale, già uno viene in mente cose, governatore, no, l'occhio turbo e torbido della persona non mi piace, le dirò la verità, sarà magari un'impressione. Poi il fatto stesso che sia un soggetto che dice di essere sodomita, di fare una pratica sodomitica, se ne vanta, e ma si dice, non lo dice, dove lo dice? La follia. Ma non è che dice non di essere... Non ha mai parlato della sua sessualità, parte... è lei che si immagina questo. No, guarda, lei se ne fanno il test delle macchie di colore, lei vede sodomiti anche là. No, scusi, adesso Teresa, non credo sia un mistero per nessuno che vendola dica di essere sodomita. No, è omosessuale. Non ha mai detto di essere sodomita. No, scusi, tutti quanti. Allora a questo punto smentisca vendola di avere pratiche sodomitiche o di avere questa fama, perché la tutto te lo vedi vendola a smentire. Lui è fissato con queste pratiche sodomitiche, cioè lui distingue, Telese ieri mi ha fatto questa distinzione tra essere omosessuale e la pratica sodomitica. Ma certo che c'è. Ma che vuol dire? No, lui non vede distinzioni. No, vede distinzioni, come no? Le vede le distinzioni. Cioè, si può essere... Telese, non peggiori la mia situazione agli occhi di Cruciani, che una volta che ha capito una distinzione, no, io... apprezziamo questa cosa, no? Cioè... Senta, scusi, allora è meglio Berlusconi di vendola perché in quanto a pratiche sessuali? Allora, se lei mi vuol far dire che Berlusconi è un eterosessuale, quindi come tale secondo natura quello che fa, è vero, però... avendo relazioni con signorine, evidentemente è peccato mortale. Senta, cioè, scusi, anche non vorrei entrare, ma cioè, se uno è un eterosessuale che pratica la sodomia, per lei com'è? Un eterosessuale che pratica la sodomia, com'è? No, allora, si sta arrampicando. Con le signorine, omosessuale, anche se ha elementi di carattere eterosessuale, cioè il peccato impuro contro natura. Ma non si trova neanche Berlusconi, è veramente chiaro, Teresa, non è che ci vuole. No, però mi scusi, un eterosessuale che pratica la sodomia, com'è secondo lei? Da bollare, da mettere a rogo, oppure una persona normale? Cioè, voglio dire, dal punto di vista della disciplina, diciamo, dei peccati, mettiamola su questo piano, siamo nella stessa cosa, cioè se uno ha la moglie, per di più anche, come è successo in un caso purtroppo anche della cosiddetta cricca, no? Che è successo nella cricca? Beh, insomma, c'è un noto esponente della cricca, no, che aveva famiglia, aveva incontri anche omosessuali. Vabbè, adesso no? Stiamo parlando di uno che non ha incontri omosessuali, di un eterosessuale che pratica la sodomia. Com'è secondo lei? Con le signorine. Ma è la stessa cosa che ho detto io, scusi. Se uno ha una moglie e per di più pratica relazioni omosessuali, è un sodomita. Vabbè, ho capito, ma si può ho capito, ma uno può praticare la sodomia anche con una donna. C'è un elemento, diciamo, di sodomizzazione anche a livello femminile, effettivamente questo... questo è da condannare? È un peccato, no, questo è un peccato oggettivamente, però non è la sodomia... Come oggettivamente? Ma chi l'ha detto? Dove? È un'altra roba questa, però lo capisce anche lei. Senta, questo, Ruggero, no? Ma il concerto di Elton John a Trani, sa da fare o no? Assolutamente no, io sono felicissimo se salterà questa cosa, soltanto intellettuali che portano il cervello all'ammasso e che sono per il politicamente corretto possono applaudire. Oltretutto, anche come pseudo cantante fa schifo, quindi non capisco francamente. Scusi, come, ma perché uno non si può andare fare a assistere a uno pseudo concerto di è sodomita John, anche lui? È sodomita pure lui? Chi? Elton John? Elton John, sì. Ah, non le risulta lei? Non lo so, ma io... Io ricordo una cosa, no? Visto che lei usa il tono canzonatorio apparentemente... No, tono canzonatorio, ma la parola sodomita, mi dia la definizione in 30 secondi, io ancora non l'ho capita bene. Secondo lei, un sodomita chi è? È uno che ha relazione col proprio sesso, col proprio stesso sesso, punto. Tanto semplice. Allora è diverso, un'altra cosa. È un'altra cosa. Si chiama pratica omosessuale, come devo chiamarla io? Cioè, prima l'ho chiamato pratica sodomitica, preferisce la chiami pratica omosessuale, così forse la capisce meglio. Ora, Elton John è un soggetto il quale, virgolette, si è addirittura fidanzato o sposato, sempre virgolette. Abbiamo la morale del giornale radio noi, anzi le notizie del giornale radio. No, no, no, non è possibile. Ruggero, grazie. È giusto che sia così. E siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3. Ancora in corso il vertice PDL con Berlusconi per avviare la verifica con i Finiani, Cicchitto, punti chiari per capire se c'è una maggioranza. Il presidente della CEI, Bagnasco, il federalismo è una ricchezza, se costruisce l'unità, se disgrega il paese, non è un valore. Obama convince palestinesi e israeliani a riprendere i colloqui diretti, Abu Mazen e Netanyahu il 2 settembre alla Casa Bianca. Continua in Francia il rimpatrio dei Rom, tensione tra Sarkozy e la Commissione europea, per il Vaticano è un provvedimento ingiusto. Tronchi d'albero e massi sulle strade, i pastori sardi bloccano per ore lo scalo di Alghero, la protesta per il pezzo troppo basso del latte. SMS, la trasmissione Quelli che il calcio, per comunicare messaggi cifrati ai boss detenuti al 41 bis, al TG3, l'ex procuratore antimafia Macri. Ora dalla Cina arrivano anche le medicine, sequestrate 45 tonnellate di farmaci importati senza controlli, rischi per i consumatori. Sky TG24. In corso il vertice del PDL, si discute il programma da sottoporre ai Finiani. Federalismo, il cardinal Bagnasco avverte, se disgrega è un disvalore. Negoziati a settembre tra Israele e ANP, nessuna precondizione, dice la Clinton. Nuovi rimpatri di Roma oggi in Francia, Parigi avanti nonostante le polemiche. Si torna a casa, primo fine settimana di rientri, bollino rosso sulle strade. Messaggi per i boss negli SMS di Quelli che il calcio, all'oscuro gli autori. Udine morto, il killer delle prostitute, Ramon Berloso, si è suicidato in carcere. I pastori sardi annunciano nuove proteste e disagi oggi all'aeroporto di Alghero. Finisce in rissa il match Grecia-Serbia di basket, arrestato un giocatore. Aquilani dal Liverpool in bianconera, un nuovo colpo di mercato della Juventus. Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. È la storia di noi due, incredibile lo so, pensare che non ci credevo e già ti amo. Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani. No, no, non mi interessa. Come mai? Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non c'era, posso... lei una intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, no, no, no, non le dico il mio... non lo voglio neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così. Alla storia di noi due, troppo breve sì, però non è finita qui, sono sicuro. Casa Gaucci. È la storia di noi due, di una notte che vorrei. Venito al correo dei voti. No, non è possibile. Ma forse sta tornando in Italia. Deve testimoniare, sembra, di fronte ai magistrati. I beni dei Tulliani. Incredibile, violini per Emilio Fede. La Ferrari di Giancarlo Tulliani. Allora, garantisti come siamo, non facciamo una scelta di campo. La vicenda di Monte Carlo, la famiglia Tulliani, il fratello di Elisabetta Tulliani, questo fratello che l'abbiamo visto nelle foto lavare una Ferrari, lavare non per conto d'altri, cioè non fare il lava macchine, non vorrei che si pensasse questo, no? La propria Ferrari. Attendiamo di capire tutti, perché l'opinione pubblica a questo punto si domanda che cosa sta succedendo e il perché non si arrivi ad una chiara chiarezza. E ancora, dopo la chiara chiarezza che tutta l'opinione pubblica attende dalla vicenda di Fini, come ci spiega bene Emilio Fede, sentitelo discettare di governo balneare, governo natalizio, panettone, eccetera. Certo, qui non si tratta delle voci, governo alternativo, governo tecnico, governo balneare, governo di Natale, panettone di Natale e quant'altro sia. Qui c'è un governo legittimato dalla grande maggioranza degli elettori a guidare il paese. Allora, o si sta dentro o si sta fuori. Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. È la storia di noi due. Secondo Raisi, però, il caso Monte Carlo, Raisi è uno dei finiani, è una sciocchezza. Solo in Italia diventa una cosa importante. La faccenda Monte Carlo, io credo che solamente in Italia si stiano tre settimane su una questione di questo tipo. Tra l'altro è stata aperta un'inchiesta farà luce, piena luce su questo, tutto per una sciocchezza che se ha valenza penale, c'è un'inchiesta in corso. Se non ce l'ha, penso che qualcuno si farà molto male. Punto. E poi ci sono le proposte shock di Luca Barbareschi, perché anche i finiani sono divisi tra di loro, sono pochi, almeno i deputati, però su molte questioni non vanno d'accordo, il che c'è una cosa particolare. Dicevo delle proposte di Luca Barbareschi sulle coppie gay. Trovo molto più pericoloso marito e moglie in borderline che se sono dei figli male, sinceramente. Cioè, se sono due persone credibili, attendibili, che hanno, che possono dimostrare di essere equilibrate, non vedo perché no, perché due uomini non possono adottare un bambino, perché no? Per quale ragione? Mi fa molto più paura quei matrimoni finti dove ci sono marito e moglie, dove non c'è più amore, non c'è più nulla. Io vivrei in Argentina, un paese civile, perché ha adottato di recente il matrimonio omosessuale, chiamiamolo così, perché lì insomma non ci sono i vescovi che si impicciano. Mi piacerebbe vivere in un paese come l'Argentina, che è cattolica, o la Spagna, che è cattolica, dove se uno è gay, non è gay, è lesbica, non gliene può fregare di meno nessuno. Bene, 800 24 00 24. Alberto da Verona, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io sono ancora scioccato come lei da ieri sera. Anche da stasera però. Sì, stasera mi ha dato la seconda botta. La seconda bastonata, Ruggero sì, sta la parlando. La seconda bastonata. No, io lo consiglierei, a parte che ha fatto bene a mandare in onda l'intervista di Barbareschi, così penso che l'abbia sentita Ruggero. Sono curioso di sapere chi è questo Fontana che parlava, questo signor Ruggero di Verona, siccome ricordo un Fontana. Lorenzo Fontana è un europarlamentare, pare, della Lega Nord, sembra vicino a Ruggero, non so all'idea di Ruggero, però bisognerebbe verificare. Ma che mi ricordo verificare. Fontana, democrazia cristiana, non penso che sia no, lui. Non è lui. Comunque questo signor Ruggero dovrebbe chiamare Radio Maria, aiuterebbe molto i problemi a risolvere i problemi della Chiesa, dell'omosessualità della Chiesa. Lei dice, Sì. O andare a frequentare le parrocchie, anche a frequentare. Ah, guarda, Alberto, io penso che li metterebbe a rogo pure quelli, amico sì, Ruggero. Sì, questo è vero. Questo anche è vero. Se fossero preti. Sì, perché io ho un'esperienza molto profonda sui problemi, questo tipo di problemi che ha la Chiesa. Le premetto che io sono eterosessuale, non è che difendo gli omosessuali, eccetera. Anzi, ho simpatia. Ma adesso non mi dica queste cose qui, come al solito, devi mettere le mani avanti. Io sono eterosessuale. Perché non vorrei essere, magari che uno telefona per difendere. Lo dico perché nessuno ha immaginato che lei fosse omosessuale, Alberto, ma non ci sarebbe niente di male, peraltro. Qualcuno pensa che io intervengo per difenderli, ma non c'è bisogno di difendere nulla, in realtà. Sì, Alberto, grazie. Silvano, provincia di Bergamo. Una sola cosa. Cosa, Alberto, mi dica. Risale molto tempo fa, mi dispiace che lei abbia avuto una brutta opinione su Umberto D. Non ha apprezzato Umberto D. Ancora con questa storia di Umberto D. Non è che non l'ho apprezzato. È che non l'avevo proprio visto, non lo conoscevo, è diversa la cosa. Sì, ma lei quando l'ha visto ha affermato che... Mi sono annoiato, mi sono addormentato, non mi ricordo. Peccato, mi sono addormentato. La mia moto e pensavo da una persona Molto. Alberto, uno non è che non si può addormentare davanti a un film, D'accordo. Umberto D, non è che si sprizzi così, non è un film... È un film, bisogna impegnarsi a vederlo, non bisogna stare lì, concentrati. Silvano, provincia di Bergamo. Salute. Pronto? Silvano, la sento, dica. Dunque, sì, mi permetta una critica. La sua trasmissione è interessante. Io vivo da solo e adesso ho spento i fornelli perché stavo facendomi da mangiare. È un cosa sta cucinando, caro Silvano? Di parlare, cosa sta cucinando, caro Silvano? Questo è il difetto della struttura della sua trasmissione. Sì, certo. Silvano, senta una cosa. Cosa? Non mi sento. Cosa sta cucinando? Guardi, sono dei fagiolini e poi del riso per fare fagiolini, riso, poi? Come? Fagiolini, riso, poi? E poi un bue arrosto. Un bue arrosto? No, Silvano, non mi prenda in giro. Cosa? No, senta, non mi vuole dire cosa mangia, vabbè, io ho capito. Ho insistito ad aspettare perché io ho passato gli 80, sì, e ho un'educazione forse oggi da buttare via. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? La settimana scorsa, sì, riguardo alla risposta data da Bossi a una giornalista col dito medio, sì, lei ha minimizzato. No, io non ho minimizzato per niente. No, ha detto un po' uno scherzo, un giocare. No, ho detto che Bossi non credo che l'avesse fatto in maniera, cioè in maniera, insultante nei confronti della giornalista. Però, poi l'effetto era quello, ma insomma non era una cosa fatta con rabbia in quel senso lì. Poi per carità, secondo me è una cafonaggine che non... Con permesso. Sì. È il gesto che è un gestaccio. Sì. Fatto da un ministro del governo che non dà un esempio assolutamente come dovrebbero dare Vabbè, ho capito. I personaggi del governo. No, ma Silvano, anche secondo me è un gestaccio. Mi lasci, vado avanti. Sì. Ai ragazzi di scuola, sì, da un paio d'anni, hanno messo il voto in condotta. Sì. Se un ragazzo all'insegnante fa il dito medio, si becca un brutto voto in condotta. E allora lei che voto dà a Bossi? Che voto dà a Bossi? Come? Che voto dà lei a Bossi per questo dito medio? Guardi, tra lui e la bandiera al cesso, zero. Zero, va bene, grazie. Eugenio, provincia di Rieti. Eugenio, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Dunque, io sono un suo ascoltatore, già avrei voluto chiamare qualche giorno fa, perché ho sentito molte telefonate che la accusavano di dare troppa enfasi al caso di Montecarlo, della casa di Montecarlo. Ma ne parlano tutti. In effetti non sono d'accordo con quegli ascoltatori. Mi sembra che lei abbia dato l'attenzione necessaria che andrebbe data, perché qui abbiamo un presidente della Camera che dovrebbe essere imparziale, che fonda un movimento politico. Vabbè, questo è un altro discorso però rispetto alla vicenda di Montecarlo. Sì, però voglio dire, siccome è questo partito del Presidente, non è proprio un partito, è un gruppo parlamentare, si fa carico appunto della richiesta di legalità e pone al centro la legalità delle sue posizioni politiche, va di bene, io lo so, sono un elettore di Forza Italia molto scontento, io scherzando dicevo con mia moglie, la prossima volta voteremo Mastella. In effetti avevo intenzione di non votare più. Scusi, che c'entra il passaggio da Forza Italia o comunque dal PDL a Mastella? No, che peraltro fa parte del PDL, anche se di un altro contento della destra di quello che sta e lei vota Mastella, scontento della destra e vota Mastella. E voto Mastella perché in effetti è come battuta. Non è che ci sia molta differenza tra... Ah, era così una cosa... Una battuta ironica. Era un paradosso che lei voleva fare. Sì. Vabbè, ma... Ecco, però al di là di questo, appunto, sì. Un movimento come quello del Presidente della Camera, che sì. Tra parentesi dovrebbe essere super partes, che si fa portatore delle istanze di legalità, di giustizia, e poi si viene a sapere che riceve case in eredità, il che non ci sarebbe niente di male, il partito riceve case in eredità. Case ricevute in eredità che poi vengono vendute a società offshore a valutazioni basse, molto basse, fuori mercato. Mi sembra logico che lei, come se ne è occupato giustamente, dando lo spazio che meritava, come se ne è occupato il Corriere della Sera. E poi c'è gente che la viene ad accusare. Vabbè, ma insomma, adesso non c'è bisogno di difendere quello che non va difeso. Grazie. Ed entriamo alle 19.33 mentre Berlusconi parla a Palazzo Grazioli dopo il vertice del PDL. Sentite, in diretta. Credo sia importante portare alla conoscenza dei cittadini perché riflette quelle che sono le volontà del Popolo della Libertà e della nostra maggioranza. Per l'azione di governo, prossima avventura. Comincio. Nelle elezioni dell'aprile 2008, anche grazie all'attuale legge elettorale, si è realizzato l'obiettivo che sin dal 1994 si erano prefissi il presidente Berlusconi e l'intero centrodestra, quello di introdurre una novità assoluta nella politica italiana, per cui gli elettori possono liberamente scegliere quale sarà il primo ministro. Quale sarà l'alleanza tra le forze di governo e soprattutto quale sarà il programma che verrà realizzato nella legislatura. Questa novità di grande rilievo non può essere assolutamente cancellata. Una radice fondamentale della democrazia liberale, infatti, risiede nel rispetto della sovranità del popolo e non c'è nessuna teoria giuridico-politica che possa giungere fino a giustificare un governo di quanti sono usciti sconfitti dalla competizione elettorale. Tantomeno si può indulgere dinanzi al tentativo che minoranze militanti della magistratura cercano di porre in atto sin dal 1994, di abbattere cioè il governo legittimo della Repubblica in nome di una presunta superiorità morale attraverso sentenze ispirate da teoremi politici anziché da una autentica esigenza di giustizia. Forte di queste convinzioni e partendo da queste premesse, il vertice del Popolo della Libertà ha lavorato oggi ad alcuni punti programmatici da realizzare nei restanti 3 anni della legislatura. Non c'è un'altra luce, sono solo queste le luci, siete sicuri? In particolare, 1. Federalismo fiscale. La legge delega è stata approvata dal Parenzo, stai ascoltando Parenzo, sì. In religioso silenzio. In religioso silenzio, le luci non andavano bene, eh. Le luci non andavano bene. Bisognerà chiamare. Però c'è stata una stoccata a Napolitano, in apertura dice non si può fare un altro governo, e una stoccata ai magistrati, così tanto per... Colpo di coda del Caimano, colpo di coda del Caimano. Sentiamo, sentiamo. Facendo religioso silenzio. Facendo obbligo di pagare a piedi lista tutte le spese e gli sprechi, ma sui costi standard ritenuti necessari per fornire ai cittadini servizi fondamentali, a cominciare dalla sanità. Con il federalismo fiscale gli italiani avranno servizi pubblici uguali in tutto il paese e sarà eliminata la differenza dei costi tra il nord e il sud. Inoltre i comuni saranno coinvolti nell'accertamento dei redditi dei contribuenti per combattere l'evasione fiscale. Gli amministratori saranno costretti ad operare con maggiore trasparenza e a dare conto ai loro amministrati di come spendono i soldi delle imposte. Gli enti locali godranno di una maggiore autonomia fiscale. Se va avanti così, Parenzo, che noia, una noia tremenda, tremenda. Adesso sta elencando tutti i punti, ma andiamo al succo. Qual è il succo? Che cosa deve venire fuori, Parenzo, da questa roba? Se si va avanti o non si va avanti? Ma qui l'uomo sta facendo la sua lista della spesa, quando è in questi momenti qui. Sono altre 54 cartelle, Dici 54, 54. Altre 54 cartelle. La cosa interessante sarà sentire Raisi e compagni come commentano questa interessante lista della spesa. Tu sei sempre là in piscina? No, io sto andando a Siena in una drammatica cena da mia suocera. A cena da tua suocera a Siena? Ma sei pazzo? Amico mio, tengo famiglia purtroppo. Anzi, sul buono sul buono famiglia ha detto qualcosa, Presidente? No, ancora no, ancora non ci arriva. E sui mutui, perché sai che io ho il mio mutuo sulla solito casa. Mutuo, eccetera. Tra poco ti presento un amico che ha messo in pericolo il tuo mutuo, uno che invitavi sempre quando avevi la trasmissione, adesso riprendi con la trasmissione, per carità, ma insomma, certo. Uno invitavi sempre ma ti ha messo un po' in pericolo col mutuo, il solito, quello con i ricciolini. Il Barba Barbato, grandioso, l'onorevole Barbato. Ha vinto la nostra gara di canto, la gara popolare. Poi noi abbiamo fatto una piccola truffa, abbiamo fatto vincere un altro, perché abbiamo fatto votare dalla Zanicchi il vincitore, che è stato Scanu, il senatore Scanu. Scanu del PD. Scanu del PD, bravo. Invece quella, la gara popolare, c'è tra gli ascoltatori, la nostra mitica gara di canto, Le Ugole del Palazzo, ispirata a Tortora, l'ha vinta Barbato. Secondo me lì c'è stato lo zampino di qualcuno, ha una falange Barbato di persone. Ho messo io una serie di miei uomini lì a votare per lui. Deve essere stato questo, perché altrimenti non si capiva bene. In viaggio verso Siena dalla suocera David Parenzo, sentiamo invece Massimo da Modena. Buonasera Massimo, 800 24 00 24. Berlusconi intanto dice il governo varerà delle norme per la riduzione fiscale. Vabbè, per la riduzione fiscale, dunque abbasserà le tasse, no Parenzo? Questo mi sembra di capire. Speriamo, è dal 94 che lo promette, la rivoluzione liberale del 94 ancora non l'abbiamo vista. Comunque fino adesso le agenzie lanciano una cosa fondamentale, che è quella che diciamo prima. Berlusconi non si può non si può cancellare la novità della scelta del premier. Insomma, voleva dire a Napolitano: tu puoi fare tutti i giochi che vuoi, puoi convocare chi vuoi, il Quirinale se io mi dimetto eccetera, però non si scappa. Insomma, qui su questo non ha torto. No, anche secondo me non ha torto. Secondo me, ma anche secondo me, anche secondo me. Massimo da Modena, buonasera. Buonasera. Dica. No, dicevo che tra Berlusconi e come si chiama Ruggero è estremamente seria la trasmissione questa sera. Adesso non è che può paragonare Parenzo, questo mi paragona Ruggero a Berlusconi adesso. Ruggero rischia di offenderti. Il libertinaggio di Berlusconi mi sa che non lo trova d'accordo Ruggero. Assolutamente. Massimo, allora. No, era una battuta. Dicevo però che io non credo di essere omosessuale, però a questo punto, dopo tutte le parole di Ruggero, se me lo trovo davanti mi verrebbe quasi da, come dice lui, da solomizzarlo, insomma. Non mi sembra una motivazione sufficiente, amico mio. Se non altro perché non l'ha visto in faccia, Com'è? Tu l'hai visto in faccia, Parenzo? Com'è Ruggero? Come no? Conosco benissimo, personaggio strepitoso. Ma non può essere con così davvero, colori sgargiantissimi. Bestia. Perché sostiene che nel Sacrum Imperium ci si veste con colori molto chiari. Ha detto che Berlusconi che si completerà la Salerno-Reggio Calabria, ma che c'entra? Qui io sto vedendo i titoli di Rai News 24. Sentiamo un attimo Berlusconi. Massimo, aspetti lì. Sabile per il rilancio dello sviluppo. Quarto punto, la giustizia. Ecco qua la giustizia, sentiamo Parenzo. In primo luogo i risultati ottenuti dal governo in tema di giustizia in questi due anni. Si ricordino a titolo... No, però no, l'elenco delle cose no. Parenzo, perché ogni volta l'elenco delle cose? Io non capisco. Uno fa... Perché ha dei cattivi consiglieri. Lui dà il massimo. Se qualcuno lì si alzasse, qualcuno dei colleghi lo facesse un po' arrabbiare, lui lì darebbe il massimo. Esatto. Lui sottostretta questo... al massimo. Invece i consiglieri che gli dicono guarda, devi elencare tutti i successi del governo. Quando uno elenca i successi del governo, la gente già non ci crede. Cioè, la prima cosa che fa non ci crede. No. Porta a porta, gli ascolti più bassi li ha fatti proprio col Berlusconi quando fa la lista della spesa. Ma non si può fare, perché non glielo dicono? È talmente semplice. Magari... Lo stiamo dicendo noi, speriamo che ci ascolti. Non si fa la lista delle spese. Non si fa la lista della spesa, perché la gente non è che la convinci, se è convinta che tu hai fatto male, non è che la convinci facendo la lista della spesa. La gente sente sopra la propria pelle se una cosa va bene, se una cosa va male. Che fa tua figlia? È qua dietro che piange, sente, perché stiamo mettendo Radio 24 qui, quando ogni volta che tu mandi Berlusca, lei... papà cambia, è il caimano. È così, dice, è così. Cresce anti-berlusconiana, purtroppo. Come purtroppo? Perché io vivo in Toscana, qua sono tutti comunisti. E dunque, allora lei si adegua, scusami. Appunto, si adegua al clima, io invece mi voglio sedere dalla parte del torto. Attueremo la riforma della giustizia, sentiamo un po'. Al fine di aumentare le garanzie per i cittadini, occorrerà altresì intervenire sulla struttura del Consiglio Superiore della Magistratura con una riforma costituzionale che preveda l'istituzione di due organismi separati per i magistrati, con conseguente rafforzamento della separazione delle carriere. Due organismi separati, Parenzo, la separazione delle carriere, quanto tempo, quanto tempo. Ma dal 90 qua non c'è nulla, cosa noiosissima di questo dibattito, perché è dal caso Tortora che si parla di separazione delle carriere, ma ti rendi conto quanto tempo è passato? È una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca. Ha detto due ordini separati, due cose separate, non ha nemmeno detto separazione delle carriere, ha detto due organismi separati che poi... Ah, Dio, che noia tremenda, Massimo, dica. Non c'è più, Massenzio da Roma, Massenzio, che nome meraviglioso. Buonasera, Giuseppe. Che nome meraviglioso, Massenzio. La ringrazio. Massenzio o Assenzio? No, Massenzio. Massenzio, Massenzio era la famosa festa di Massenzio, l'estate romana. Deriva dall'imperatore pagano, certo, che è stato sconfitto da Costantino. Un grazie intanto a Nicola che gentilmente mi ha richiamato. Una sonora tirata di orecchie a Ruggero, che secondo me fa il paio con un video che gira su Facebook recentemente di una suora intervistata in una... Quella secondo me è una bufala. Quella è una bufala, sì. L'ho visto anch'io. Una suora che sono 10-15 secondi che si esprime sugli omosessuali, no? Dice delle bisogna cose. Annientarli. Bisogna annientarli. Diciamo eccetera. Che la visione della Chiesa risulta assolutamente anacronistica. Però mentre la Chiesa sta indietro di 150 anni, Ruggero non è che rappresenta la Chiesa. No, ci mancherebbe. No, attenzione. Ruggero porta l'esempio dei sodomiti e quindi torna, diciamo, all'epoca della Divina Commedia e quando Dante li mette in non so quale girone. Quindi parliamo del 1300. C'è una persona che sta indietro di 700 anni. Allora, voglio dire, insomma, io rispetto tutti, ho una famiglia, un figlio, ma ho amici omosessuali, quindi di fronte a questa aberrazione, se ieri ero basito, oggi trasecolo. Però ha ragione, alla fine ha ragione Parenzo quando mi dice... Ruggero è un pazzo, però qui gli ascolti salgono. Insomma, Ruggero ha fatto. Ma gli ascolti salgono con Ruggero che con Berlusca, ma ti rendi conto? Sì, è vero. Viva. Tu stai mandando Berlusca in diretta, molto sagace, che sta facendo questa lista della spesa, e tutti intervengono sulle castronate fortemente dialettiche, assolutamente pazze, di Maurizio Ruggero. Però lui ci crede davvero. La cosa grave, come dicevamo ieri, è che Ruggero ci piace perché dice delle cose aberranti. No, ci crede, le dice con tono. Secondo Telese, serio? Stasera l'ho messo a confronto con Telese, no? La teoria Telese lo sai qual è? No. È questa qua. Gliel'ha detto in faccia, lui si è arrabbiato in maniera furiosa. Ha detto: secondo me, lei, Ruggero, è uno di quelli che dice queste cose, predica la sodomia, i gay, eccetera. Poi la notte prende la macchina e va a trans. Questo non sappiamo. È diventato male. Non posso contraddire Telese, che è il mio supercapo, quindi non... Vabbè, che c'entra adesso, però no. Può essere, secondo te, può essere o no? No, questo non può essere. Si può dire tutto di Ruggero, ma forse questo no. Forse questo no, Berlusconi, da perché Ruggero... è grave, perché se invece andasse a trans, sarebbe un personaggio... umano, normale, diciamo, sarebbe non umano, sì, umano, sì, certo. Uno dice, invece non è umano. Non è umano. Invece da Ruggero a Berlusconi, dunque, facciamo annoiare gli ascoltatori. Berlusconi. Alle gare per gli appalti pubblici e sono stati dati più poteri al procuratore nazionale antimafia. Lotta alla criminalità comune. L'azione dei carabinieri, della polizia e della Guardia di Finanza, voluta e sostenuta senza ambiguità dal governo, ha dato grandi risultati. L'elenco della spesa, Parenzo, continua, si continua con l'elenco della spesa. Tant'è che le agenzie fino adesso, guarda che cosa hanno dettato, tre cose, due. Berlusconi, l'ANSA in particolare, non si può cancellare novità della scelta del Premier, e l'altra cosa è col federalismo diminuirà la pressione fiscale, una cosa che si dice, insomma, anche qui credo da una ventina di anni, no? Eccoci, 19.46, 800 24 00 24, questa è la Zanzara per l'ultima puntata per quello che riguarda il sottoscritto, che poi si assenterà per una settimana. Una sola settimana, me lo posso permettere, Parenzo? Sì, o no? Beh sì, ha lavorato tutta l'estate, effettivamente. Insomma, un po' chi viene? No, il collega Alessio Maurizio Amorizzi, che è qui, lo salutiamo con deferenza, naturalmente. E dove vai in vacanza, Cruciani? Vado in montagna. In Trentino, in Alto Trentino, Adige? Trentino. A scalare montagne, scalare, correre. Qualche visita in più? qualche indizio in più? Se vuoi sapere troppo, è vero che noi ti abbiamo localizzato a Siena con la suocera, dunque abbiamo perché... Ma io non ho segreti, anzi potete chiamarmi anche il numero fisso 0577. Poi? Beh no, il resto del numero non lo do. Ma non sai com'è quelli che danno i numeri. Ai milioni, ai Barbato, lei lo darebbe il numero, Barbato, il suo numero, lo darebbe agli ascoltatori, agli elettori, lo dà in giro o no? Il mio numero è pubblico, è sul mio sito, lo possono trovare tutti, non c'è bisogno che lo dia. Non faccia il furbo, lo 06 c'è, quello della Camera, non il 347. Non è vero, assolutamente no, non dite le bugie. Barbato ha il suo numero di cellulare, del telefonino, sul proprio sito. Provate e troverete. Parenzo, ti ho fatto rincontrare un vecchio amico, Franco Barbato dell'Italia dei Valori. Ho fatto ascolti altissimi ad Iceberg, ora lo inviterò anche a Titanic Italia su 7 Gold, l'onorevole Barbato. Barbato. Volentieri, grazie. Se lo ricorda, no? Che serate con Parenzo, lei era lì a fare da mattatore assoluto. Poi Parenzo ha avuto qualche problemino, mi sa, invitandolo, no Parenzo? Querele su querele. Addirittura. Beh, qualcuno l'ha minacciata. Non penso, perché dico sempre la verità. Io non sono stato mai querelato da 2 anni e mezzo che perché le spara troppo grosse, Barbato, che è inquerelabile lei. Cioè. No, perché dico sempre la verità. Io parlo sempre con cognizione di causa. Forse la ragione per la quale la lei sa, però, Barbato, che c'è una verità politica e una verità giudiziaria. C'è stato qualche parlamentare che mi ha anche menato. Scusi un attimo, Barbato, ma Landolfi, per esempio, non l'ha querelata? Nel modo più assoluto non l'ha querelata Landolfi, no. No, mi ha fatto un atto di citazione innanzi il tribunale di Milano, rispetto al quale non mi sono avvalso delle mie guarentigie, della insindacabilità, allora? Anche e sto affrontando il giudizio innanzi al tribunale di Milano, perché così si fa, si va dal giudice. Beh, appunto, allora l'ha querelata, non è vero che non l'ha querelata nessuno, che significa? Non mi ha querelato, e che ha fatto una richiesta di risarcimento. Vabbè, ho capito, perché... che... E come si chiama? E come si chiama? È la stessa cosa, Barbato? Non è la stessa cosa, perché con la querela si ha un accertamento della verità, perché il giudice penale, con la querela che si propone, va ad accertare la verità e va ad accertare i fatti, poiché non poteva accertare cose diverse da quelle che Vabbè. Comunque sta davanti, insomma, l'ha portata in tribunale, adesso mettiamola come ha chiesto un risarcimento. Comunque è vero, Parenzo, guarda che nel sito di Barbato lo possiamo dare il suo telefonino, Barbato? Certamente, perché allora io se cittadini, se volete trovare qualcuno che con cittadini normali, allora non ho paura di farmi ascoltare, di essere intercettato, perché non parlo con camorristi, con piduisti, con affaristi. Ho capito, ma qual è la ragione per la quale con la sua famiglia nascondere il mio numero? No, ho capito, Barbato, c'è anche una questione di privacy, così uno il proprio numero lo tiene, no? Ma che privacy? Io sono un soggetto politico, sono un soggetto pubblico, io vengo pagato con i soldi dei cittadini, io sono un dipendente dei cittadini e allora devo anche rispondere a telefono. Questa è una cosa molto grigliana. Il rischio telefono, Barbato, sa che io questa è una cosa un attimo, Barbato, un attimo solo. Parenzo, che dico che il rischio televendita è dietro l'angolo, questa democrazia post Barbato, il punto è che voglio dire, lei ce n'ha 10 di telefonini, secondo me, tra l'altro. No, io questo telefonino, che tra l'altro è il telefonino intestato ad una mia società, per una ragione molto semplice, perché in questo modo può essere intercettato. Quindi c'è l'autoricarica, cioè ogni volta che uno la chiama lei guadagna praticamente. No, che guadagno? Non guadagno nulla. No, sai che ci sono questi contratti. Mi chiamano, posso essere regolarmente, faccio così, io ho fatto un numero, ogni volta che mi chiamano guadagno come qualsiasi altro cittadino, ecco. Vabbè, comunque lei secondo me lei ha questo numero intestato da una società, che poi non ho capito perché lo intesta una società. Comunque, vabbè. No, perché io nella mia vita faccio l'intermediario assicurativo e quindi ho un'agenzia di assicurazioni ed è questo il mio lavoro da cui vivo da sempre. Ah, perché poi su questo numero lei poi ci scala le tasse sulle telefonate. No, non ci scappa. È normale, ma mica ho detto che ma una cosa, lei mica è reato. No, Parenzo va sempre dal commercialista. Non veda reati dappertutto. Vede reati dappertutto. No, io vedo un comportamento corretto che bisogna tenere dappertutto, perché la morale non è l'abito della domenica che si caccia solo per le buone. Abbiamo capito, d'accordo, ma non stiamo dicendo che lei commette un reato se le spese del suo cellulare le detrae dalle tasse. Abbia pazienza. No, non le detraggo dalle tasse. E fa male. Per telefonare ho un altro 4 numero intestato a me Francesco Barbato, perché non è corretto utilizzare il telefono intestato alla mia società per fare delle chiamate riferite alla mia attività politico-istituzionale, perché le faccio nella qualità di deputato Barbato Francesco. Allora, però un attimo, Barbato, Parenzo, mi sa che ci sono delle domande di giornalisti a Berlusconi, sentiamo, questa è la cosa più interessante. Io non vorrei parlare di questa situazione in questa occasione, perché ci saranno altre occasioni per assumere delle posizioni e delle decisioni. In questa occasione permettetemi di restare aderente a quello che è stato il lavoro del vertice del Popolo della Libertà, e cioè a quello di riassumere i risultati del governo e di proporre quelle che sono le azioni che il governo intende proporre, svolgere da qui alla fine della legislatura, essendo ben inteso chiaro che per questo c'è la necessità di una maggioranza, e non soltanto di una piccola maggioranza, in Parlamento. Presidente, come pensa di conquistare i fini anni moderati? Come pensa di conquistare i fini anni moderati? Nessuno, leggo sui giornali, è estate, quindi è chiaro che c'è un libero sfogo della in fantasia, che ci sono state delle azioni da parte nostra su esponenti del Popolo della Libertà che hanno aderito al nuovo gruppo. Sono rimasti nel Popolo della Libertà e quindi non crediamo di dover svolgere delle azioni di conquista nei loro confronti. È un Berlusconi molto moderato, Parenzo. E mi risulta che anche i tre coordinatori abbiano fatto la stessa cosa. Io non ho fatto una sola telefonata all'indirizzo di qualcuno di questi parlamentari. Non ha fatto una sola telefonata. Bossi si dice pronto alle elezioni. Anche noi siamo pronti alle elezioni, ove non riscontrassimo in Parlamento la maggioranza necessaria per attuare questo programma. E vi dirò che tutto ciò che ci risulta da test, da focus, soprattutto in questo momento i sondaggi sono difficili perché gli italiani sono per buona parte in vacanza, però abbiamo provveduto a fare dei focus e tutti i focus ci indicano che avremmo, se ci fossero delle elezioni in un periodo breve da qui in avanti, un grande risultato, e che la maggioranza composta da noi, dalla Lega, a cui probabilmente si aggiungerebbero altre forze politiche, sarebbe assolutamente addirittura superiore al 50%. Beh, non ci sono i sondaggi, ma ci sono i focus, però, Parenzo. Parla dell'UDC? No, non credo. La destra, forse, altri. Dal nostro ufficio di presidenza. Comunque ci sarà una mozione di fiducia, mozione di fiducia alle Camere, probabilmente a settembre, anzi sicuramente. Quindi non è cambiata quella situazione. Presidente, se la maggioranza fosse risicata, se questo è sostanzialmente un voto di fiducia che passasse per qualche deputato, lei se la sentirebbe di andare avanti come la prima? Se passasse per 4 deputati per pochi voti, se la sentirebbe di andare avanti oppure no? Questa è la domanda. Io credo, le dico che francamente mi attendo una maggioranza non risicata di fronte a questo documento. Come? Lei pensa che le campagne giornalistiche sulla casa Monte Carlo, la domanda sulla casa Monte Carlo, nel corso, possono condizionare il voto di fiducia? Tema. Voglio soltanto assicurare che non c'è mai stato da parte mia, e credo anche da parte dei miei collaboratori, nessuna incentivazione rispetto a queste campagne, che noi siamo sempre spiaciuti quando si passa da un'attività politica come quella normale ad un'attività politica che conosce scandali o campagne giornalistiche che portano dei turbamenti a questa attività e alle relazioni tra le forze politiche. Sono estraneo alle campagne del giornale, avete sentito? Chiudiamo, su. Perché si arriva a un negoziato continuo e che alla fine si arriva ad un testo che, come ha detto lei, non è più quello. Ecco, guardi, io sulle intercettazioni ho espresso il mio parere quando, avendo riscontrato che gli ultimi emendamenti di chiara provenienza dall'Associazione Nazionale Magistrati avevano praticamente nullificato le garanzie dei cittadini. Io a quel riguardo ripeto qui con forza che non è uno Stato civile quello nel quale è democratico, nel quale i cittadini alzando il telefono non hanno la assoluta certezza della inviolabilità della loro conversazione. Come Barbato, quindi sull'intercettazione ritorneremo. Ancora oggi abbiamo appena esaminato il problema, poi abbiamo deciso di destinarlo ad altra data, ma con questa legge che rimarrà in Parlamento, che forse sottoporremo al voto del Parlamento, ma con questa legge il problema delle intercettazioni non si risolve affatto. Ma come, che cosa impedirà che ci sarà di nuovo una trattativa continua? Ecco, noi non accetteremo che sui punti riguardanti il programma che abbiamo sottoscritto con gli elettori ci possano essere trattative come quelle che si sono verificate nel passato. E proprio quel sistema ci ha portato alla decisione che è stata assunta nel nostro ufficio di presidenza con i 33 voti contro 3, e il cui contenuto voi conoscete bene. Non abbiamo dato prova di grande senso di responsabilità nel non sollevare il problema sino a quanto non si è ottenuta la votazione sulla manovra in Parlamento, che era una manovra fondamentale nell'interesse del Paese, nei confronti Vabbè. Anche... E invece noi diamo il numero di Barbato, caro Parenzo. Lo uno diamo... dei numeri. Uno dei numeri. Quanti telefonini ha Barbato? Io ne ho sempre due. Due. Come le dicevo prima. Uno intestato alla mia società per poter essere intercettato e l'altro, quando faccio qualche chiamata io, intestato a me, Francesco Barbato, per poter fare delle chiamate e pagarle con il mio conto privato. Benissimo. Personale. Quello per i cittadini è 348, prendete appunti se volete parlare, discutere, insultare, magari, spero di no, l'onorevole Barbato, 348, oppure chiedere qualcosa, insomma, 348, lo dica lei Barbato. 348-26-59-696. Questo è acceso sempre? Sempre acceso e rispondo sempre. Parenzo! Questa è la Seconda Repubblica, amico mio. Lei si immagina De Gasperi in una tribuna politica della RAI che dice questo è il mio numero di telefono? No. Ma Barbato, secondo lei anche Berlusconi dovrebbe darlo? Beh, secondo me Berlusconi nel focus di cui parlava prima ancora non è chiaro. Sa che cosa non è chiaro? Cos'è che non è chiaro? Tra Fini e Berlusconi ancora non è stato chiarito a chi dare... l'ergastolo o 30 anni, sempre dal punto di vista politico, politicamente parlando, lei a chi darebbe, gli italiani ancora non hanno deciso, ancora non sanno a chi dare l'ergastolo dei due e a chi 30 anni di carcere, sempre politicamente parlando, per il disastro attuale che stanno causando ad un paese in crisi. Vabbè, ma lei la mette sul serio, un attimo solo Barbato, perché vogliamo parlare di canzoni, non di politica, lei che critica Berlusconi, no, fino... Perché guardi, io... Qual è la versione televisiva che si chiama La Zanzara? C'è una trasmissione con la quale adesso sono collegato. Che... mica è televisiva, è radiofonica, Barbato. Un programma, chiamiamolo un programma, dai, per semplificare. ma guarda, ma andiamo invece nel merito del problema. Perché quale merito? Di che cosa? Che anche La Zanzara ma fa come tutti quanti gli altri. È mai possibile che io sono stato defraudato di un mio diritto democraticamente costituito? Perché non è possibile che voi avete organizzato una ippareda, avete ascoltato le canzoni dalle voci di politici, certo. Me compreso, è stata indetta poi una votazione online, poi sempre voi della Zanzara avete rilevato che il più votato è stato Barbato. Certo, e noi siamo qui a celebrarla Barbato, perché lei è il vincitore. Ma mi hanno detto che invece poi ci sono state ecco, anche qui le solite manovre di palazzo, e devo dire la verità che questa volta sono d'accordo con Berlusconi, perché Berlusconi come me è stato scelto dai cittadini, Berlusconi come me è stato votato democraticamente ma lei ha ragione Barbato, infatti lì c'è stata la giuria, diciamo, degli esperti, che era Iva Zanicchi, che ha scelto un altro, e poi c'è il voto popolare, ma per noi conta il voto popolare, infatti l'abbiamo chiamata per ultimo. Il vincitore è Barbato, no Scanu. A tra poco sentiremo la canzone di Barbato. La 7, sentiamo i titoli, poi Barbato. Terminato il vertice del PDL a Palazzo Grazioli, in corso la conferenza stampa di Silvio Berlusconi, 5 i punti del programma di governo che sarà sottoposto alla fiducia del Parlamento. I finiani non siamo traditori, pronti alla mobilitazione, bocciano la liturgia del vertice, ribadiscono non siamo traditori. Il PD intanto punta ad una mobilitazione porta a porta dell'elettorato in attesa di capire gli scenari futuri. Le autorità monegasche smentiscono, al nostro telegiornale scorta al presidente della Camera Fini, la procura di Perugia conferma l'apertura di un fascicolo sui beni di Elisabetta Tulliani, ma smentisce l'avvio di un'indagine. Dalla loggia Carboni al giallo della casa monegasca, gli ultimi capitoli delle inchieste giudiziarie estive che coinvolgono la politica. Ore decisive per Marisol Soraia, la piccola nata in ambulanza dalla madre morta durante un incidente. Domani mattina i medici verificheranno se ci sono stati danni cerebrali, cauto ottimismo dei medici. Frasi in codice per i boss in carcere sottoposti al regime del 41 bis negli sms inviati durante alcuni programmi televisivi, tra cui quelli che il calcio, lo rivela l'ex procuratore nazionale antimafia aggiunto Vincenzo Macri. Scendono in piazza i pastori sardi per protestare contro la politica economica del governo. Un migliaio di persone bloccano per 3 ore l'aeroporto di Alghero, annunciata una nuova protesta davanti alla villa del Premier in Costa Smeralda. Debutto vincente per l'esordio di Balotelli nel Manchester City. Aquilani lascia il Liverpool per la Juventus, sarà bianconero per un anno. Domani torna la sfida Inter-Roma, vale la Supercoppa. Bene, 20 e 3 minuti, 800 24 00 24. Franco Barbato in collegamento da dove? Barbato, dove si trova? Io sono a Paestum, nella mia casetta qui sul mare di Paestum. Com'è il mare a Paestum? Com'è il mare a Paestum? Il mare a Paestum è bellissimo, è trasparente, è pulitissimo. È uno dei mari dove sicuramente c'è la bandiera blu di Goletta Blu, perché su questa parte, diciamo, della costa campana, dal Basso Sele fino giù al Cilento, è un mare cristallino, diamantino. Capito Parenzo? Capito Parenzo? Inchiesta sulla bandiera blu bisogna fare subito. Intanto Berlusconi ha detto o fiducia o voto a dicembre, questo alla fine della conferenza stampa, forse con i giornalisti, mi sa che... Ma si va al voto. Si va al voto. Posso dare un consiglio a Berlusconi? Perché che consiglio ieri sera vuole dare a Berlusconi? I commercianti, i ristoratori di Paestum mi segnalavano che c'è una affluenza pari al meno 40% dello scorso anno. Per cui se lo scorso anno sono riusciti ad arrivare a febbraio-marzo, quest'anno con gli introiti, diciamo, di questa stagione, di questo periodo turistico estivo, non si arriverà neanche a fine anno. Se Berlusconi si preoccupasse del turismo che è saltato, glielo posso dire già da oggi perché sono qui. Beh, ma non è che Paestum non è che è il centro del mondo, Barbato. No, le parlo di tutta la costiera fino a scendere giù, fino al Cilento, dalla costiera amalfitana, insomma, i punti. Però scusi, mi dicono che Paestum in realtà il mare non è che sia poi eccezionale, mi dicono anzi un mare il mare di Paestum, magari il mare di Rimini e di Riccione fosse così bello e pulito. Vabbè, come ma che quello. Paragone è? Cioè... È un paragone dove le dico che lì c'è un turismo avviatissimo e comunque ha registrato sicuramente anche lì una debacle durante questa stagione. Vabbè, Barbato, adesso non mi faccia la brambilla della situazione. Canzone di Barbato, vogliamo sentire Barbato che canta, il vincitore del nostro festival, delle nostre ugole del palazzo. Via! Autostrada deserta al confine del mare. Sento il cuore più forte di questo motore, sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Sei l'immensa paura che tu non sia mia. Altro che originale, Parenzo, qui Barbato. Che... Vittoria meritata, eh? Una vittoria meritata, dici, eh? No, ma io adesso ho diritto a un premio meritato, quindi attrezzatevi, verrò a Milano da voi a ritirare un premio perché venga ripristinata la democrazia. No, ma guardi, la democrazia non è mai stata, non è mai stata, c'è... No, non è vero, mi è stato detto che c'era stata una modifica perché c'era questa super commissione con la Zanicchi e con tutti gli altri che avevano modificato la volontà popolare, la volontà dei cittadini. E allora la giuria, io devo rispettare il parere della giuria, Barbato. Sì. Non è che mi può ricusare la Zanicchi adesso, Adesso la Zanicchi è un'intenditrice, ha detto, tra l'altro la Zanicchi, Barbato, un attimo solo, la Zanicchi tra l'altro ha detto che lei ci mette molta passione, certo che la voce è quella che è, però ha detto che ci mette molta passione e l'ha fatta classificare, quanto è, terzo? Secondo, terzo. Barbato, che fa? Mi contesta i giudici, scusi. No, assolutamente, c'è un giudice, quello superiore, che è il popolo. E ve le dico la verità. Ma lei è come Berlusconi, Barbato. Benissimo, io come Berlusconi siamo i vincitori democratici eletti e scelti dal popolo. Lui vero è che ha vinto Palazzo Chigi, mentre io sono la ippare di questa canzone, di questa, diciamo, di questa gara che avete fatto tra i politici che cantavano. Ma siamo i veri vincitori. Senta, Barbato, ma lei perché ha questa passione per Venditti? Beh, perché è uno dei cantautori che mi è sempre piaciuto, le sue canzoni, che fantastica storia la vita. Strano che non abbia scelto in questo mondo di ladri, però. Beh, quella lì è un'altra che... Anzi, farò una proposta a Di Pietro. Nella prossima festa dell'Italia dei Valori chiederò che venga portato Venditti come cantante per allietare una serata lì tra tutti. Vediamo tutti. Se è disponibile. Non so se sia tendenza Di Pietro, Venditti. Bisogna vedere. Beh, in un grande rifiuto, Però penso che in questo mondo di ladri forse va bene anche Venditti. Barbato, fare... Parenzo, che vogliamo fare? Vogliamo far cantare qualcosa, Barbato, in questo mondo di ladri, qualcosa? Quella che sa meglio di Venditti, qual è, oltre a quella che abbiamo ascoltato, Barbato? Beh, in questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Pronto? Sì, la sento, prova da... La stiamo sentendo, in questo mondo di ladri, in questo mondo, di eroi. Ma quella più bella è quella che salta la vita. Qual che è? Fantastica storia è la vita, dai. Anche in politica divertiamoci e diamo un ma qual è quella che abbiamo ascoltato prima? No, allora mi faccia quella. Non la sa, sì. Barbato, non la sa. Fantastica storia è la vita. Vabbè, poi dite che sono scordato, poi interviene la Zanicchi, che non vado bene. Ho già vinto, è inutile che cercate di fare appelli. Allora, ho già vinto, quindi questi tentativi di riportarmi sul campo di battaglia non valgono più. Devo solo essere chiamato per venire a ritirare alla Zanicchi. Bravo, lei ha ragione. Premio meritato, scelto democraticamente dai cittadini. Allora, facciamo così, quando la prima volta che la invita Parenzo nel suo nuovo show, che ricordiamo quando è Parenzo, perché sennò qui... Titanic Italia, su 7 gold. Titanic Italia su 7 gold. Settembre. Da quando, Parenzo? Da metà settembre. Da metà settembre, quando Barbato andrà, perché sarà a Milano, naturalmente. Barbato andrà ospite là, prima viene alla Zanzara nella prima serata e dopo da Parenzo. Barbato, grazie. Benissimo. Prime noctis. Ius prime notti, chi ce l'ha? No, ce lo dovresti avere te. Ius prime no, adesso perché Barbato, dal punto di vista televisivo, è un'invenzione di Parenzo, è un'assoluta invenzione. È vero, confermo. È vero, Barbato? Sì, però si ricorda quando si presentò con la Coppola da me? Con la Coppola, Barbato? Sì, per dire oggi la Coppola e la Lupara, che utilizzò pure Di Pietro davanti al Parlamento per dire le leggi criminogene che sono state messe in campo, dallo scudo fiscale... Però da lì c'era solo la Coppola, senza Lupara, E no, ma la verità è questa, che la Coppola oggi è anacronistica, perché la mafia non è più quella della Coppola e della Lupara. Appunto, Oggi la criminalità organizzata è nell'economia. Con gli SMS, ha visto che con gli SMS a quelli che è il calcio, riescono, quelli del 41 bis riescono a parlare con tutti se vogliono. Ma io mi domando una cosa, Parenzo, su questo, ma perché quelli del 41 bis guardavano quelli che è il calcio? volevano farsi del male anche loro. 20:12. Grazie Barbato. Una cosa, io proprio domani andrò a fare il mio primo bagno di questa stagione estiva. Dove? E sarà un bagno della legalità, perché sapete dove vado ancora a fare questo mio primo bagno? Dove va? Il mio primo bagno, vado a farlo in una piscina che è in un complesso alberghiero che è stato confiscato alla camorra qui a Contursi Terme nel Salernitano. Ebbene, questo bene confiscato alla camorra che è stato affidato al comune di Contursi Terme, sì, domani sera organizza l'amministrazione comunale una festa perché vogliamo riappropriarci dei beni della camorra. Noi però non ci crediamo che lei ancora non ha fatto un bagno. No, neanche adesso, perché io sono un terricolo, io adesso sono in giardino, sto mettendo i miei fiori, le mie piante, sto curando il mio giardino qui, perché preferisco stare, ecco, sempre con i piedi per terra e preferisco al mare, alle barche, a qualche otto. Ma anche sulle barche, che mare c'è avere una barchetta? Un gozzo, un piccolo gozzo. Non ho nulla, non ho nulla, anzi, per la verità, non ho fatto neanche ancora un bagno perché preferisco stare qui, prendere il sole in campagna. Niente yacht, niente yacht. Non è un'immagine troppo frugale, sempre questa idea della povertà, della politica francescana. Tra l'altro, una bella casetta, una bella villetta qui. No, di con orgoglio, no? Lei ha lavorato, si è fatto una bella villa con delle belle piante grasse. E io tra l'altro mi diverto, infatti ho tenuto tutto il giorno con me i giardinieri, mi hanno portato delle piante che sono andato a scegliere. Pure giardinieri, altro che... Certo, perché ho ordinato delle piante che mi hanno portato qui e che hanno insieme a me piantato in questo giardino. Barbato, io starei con te, con lei tutta la sera, mi farei raccontare tutta la sua vita, cosa fa stasera. Non esageriamo. Per la verità, ieri sera sono stato qui a Pestum, c'era uno spettacolo con Renzo Arbore, c'era l'orchestra italiana, il sindaco e l'amministrazione comunale mi hanno invitato e ci tenevano che si tra con loro. Sempre il concerto della legalità, sempre là. Era un concerto nei templi di Pestum, lì proprio nei lei templi. Però mi sa che mi imita il Di Pietro agricoltore, ha visto Di Pietro lì a Montenero, allora si è imbaghito di queste immagini di Pietro col trattore. In modo più assoluto, io il migliore tempo libero lo dedico al giardinaggio, è il mio hobby preferito, anche quando sono alla mia casa lì a Camposano in provincia di Napoli, il mio tempo lo dedico al giardino, alle piante, ai fiori. Vabbè, grazie, vabbè. Grazie. Buon bagno, bollico. Buon bagno, grazie. Domani a tra poco. Il bagno della legalità. A tra poco. A voi. Buonasera. Arrivederci. Siamo qui, Parenzo, sei arrivato nel frattempo? Sì, sono tutti già a tavola. Ma allora ti lascio, scusami. No, pranzo con conversare con te è un piacere. Pranzo con i suoceri. Lo dico, anzi, in cena. Modo riservato. Cena con i suoceri. Meglio voi della suocera. Meglio noi, dici, quante persone ci sono? Ma saranno 7-8 persone. 7-8, Famiglia allargata. Famiglia allargata, vabbè, ma succede ogni tanto. Bisogna per forza. Vabbè, intanto il traffico, perché noi siamo arrivati a ridosso del traffico con Barbato che ci ha portato in questo, no, in questa sua tenuta. Da Pestum con il giardinaggio, il primo bagno domani, con la canzone. Traffico, torniamo subito. Allora, ultimi 10 minuti anche con Davide Parenzo in collegamento da Siena. Parenzo che preferisce stare con un quarto d'ora piuttosto che mettersi a tavola con 7-8 persone, con la suocera, la moglie credo che non gli dispiaccia, però insomma è meglio la zanzara che la suocera, non c'è dubbio. A tra poco. Strade in diretta. Ci occupiamo subito di condizioni meteo perché piove forte in Veneto e sulla tangenziale sud di Verona gli svincoli per la statale 434 sono chiusi perché allagati. C'è ancora traffico sulla rete stradale, al traforo del Monte Bianco le attese verso la Francia sono ancora di un'ora, sulla 14 Adriatica verso Bologna code a tratti da Ancona a Rimini. I cantieri, la causa delle code sulla 3, la Salerno-Reggio Calabria tra Falerne e Altilia in Calabria e sempre verso Salerno tra Battipaglia e Ponte Cagnano nel Salernitano. Intorno a Roma, sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare, si è verificato un incidente, occorre prudenza all'altezza di Sette Bagni. Un incidente con più mezzi coinvolti è invece reso necessario alla chiusura in Puglia della statale dei Trulli tra le province di Bari e Brindisi, tra Loco Rotondo e Fasano. Ne torniamo tra un'ora. La Zanzara. Bene, 20:17, 800 24 0024. Sentiamo qualche ascoltatore. Gianmarco, Gianmaria, come si chiama? Gian Maria da Roma, buonasera. Gianmaria da Roma. Buonasera. Dopo Massenzio un Gianmaria, vediamo che cos'altro esce da Roma questa sera come nomi. Che le devo dire, dopo 20 minuti di Barbato uno è un po' provato. No, c'era anche Berlusconi prima, non è, c'era sì, però ecco, è stato un climax, adesso non so più che aspettarmi, insomma. No, per stasera mi sa che abbiamo finito, però non è detto. Sì, infatti, visto che ha parlato con Lugo Ladoro, io vorrei riallacciarmi al caso Morgan, 30 secondi, sì. Che secondo me ha dei punti di contatto anche con le cose che ha detto ieri Barbareschi, le spiego per quale motivo. Una cosa che mi ha veramente lasciato esterrefatto di Morgan è stato che quando lei ha parlato con lui, alla fine della telefonata lei ha detto: vedrò eventualmente di contattare Tosi, vediamo che cosa si può fare. E Morgan a quel proposito ha risposto: beh sì, vedi magari se puoi metterci tu una parolina. Allora io dico, tutti i personaggi pubblici chiaramente hanno una certa immagine, no, che si costruiscono, e secondo me la stessa cosa riguarda per esempio Luca Delese, che da quando sta sul Fatto si sogna Berlusconi anche di notte, perché sta sempre a parlare di Berlusconi. Morgan si è costruito questa immagine del bello e dannato, del tipo chiaramente che da Rimbaud, Baudelaire, l'assenzio, la droga, l'irrazionalità, la fantasia, l'arte, la cultura e via dicendo. E allora? E allora il discorso è: questo è il suo personaggio, quando viene intervistato non fa altro che dire che tutti gli italiani sono chiaramente delle mummie, conformiste e vi dicendo, e che cosa fa? Chiede l'aiutino, la raccomandazione al primo che può dargli un contatto con Tosi, no, come un qualsiasi italiano. Guardi, Gianmaria, lei sta sbagliando tutto, perché certamente no, Morgan non ha avuto bisogno per avvicinarsi a Tosi della raccomandazione del sottoscritto. Prima. No, questo assolutamente no. Noi, non voglio dire noi che abbiamo, lei... abbiamo cercato e ci siamo anche divertiti a farlo, naturalmente. Non è che l'abbiamo fatto con spirito così, no, diciamo, ma filantropico. Questo sì. Però poi anche perché dicevo... Morgan ci è simpatico, ci sembrava una discriminazione un po' assurda. Abbiamo fatto in modo di invitare tutti i protagonisti, parlare con gli avvocati, eccetera. Abbiamo cercato di creare un clima adatto alla riconciliazione. Non è che facciamo solo questo. Non era per fare una polemica, era solo vedere. Poi un'altra frase che disse fu: adesso la mia ex moglie mi chiede 2000 euro al mese. Cioè, alla fine a me è sembrato questo grande cantante un povero disgraziato. Mi scusi, tengo famiglia, devo vedere cosa fare. Ho capito, ma avrà i suoi problemi, Parenzo. Sì, non è che... sì, essendo un uomo pubblico, come dire, ha messo in piazza il suo essere artistico, il suo essere uomo, il suo essere padre, ed è normale che noi ne abbiamo discusso, come se ne è discusso in altri episodi televisivi, sui giornali. Cioè, quando un uomo pubblico e ha una sua dimensione come questa, è chiaro che se ne discute, no? Ma... poi non capisco il paragone che ha fatto l'ascoltatore con Telese. Che c'entra Telese? Adesso, per carità, non è che lo dobbiamo difendere a ogni costo, però che c'entra Telese? Gianmaria, cosa c'è? Il Fatto parla sempre solo di Berlusconi, cioè ha questo questa Di Berlusconi parlano, Gianmaria, di Berlusconi parlano tutti. Non è che parla solo Telese sul Fatto. Ne sono pieni i giornali, la televisione, eccetera. Da 15 anni in Italia si parla solo di Berlusconi. Sì, ma quando c'è stato anche il caso del sindaco del Bergamasco che toglieva il mangiare bambini, mi ricordo, lei ha parlato con Telese, lui diceva: una volta ho preso mio figlio da scuola, non ha potuto mangiare, si è messa a piangere. Insomma, credo che questo bambino. Amica, che c'entra Berlusconi con questo? Lì si parlava dei leghisti, però. Era sì, ho capito, però basta, voglio dire, bastonare sempre in quella direzione. Non bastonava così una volta Telese. Adesso questo può darsi, era in un altro contesto, in un altro ambiente. Sì, assolutamente. Però, assolutamente. Mi scusi, in quel caso c'ero io a fare da contraltare. Io mi ricordo che difesi a spada tratta il sindaco di non mi ricordo quale paese, no, hai fatto bene, in provincia di Brescia, tra l'altro difendendolo abbiamo scoperto dopo che c'erano anche sindaci del Partito Democratico in Emilia Romagna, anche altrove in Lombardia, i pochi che ci sono che più o meno prendevano gli stessi provvedimenti e poi, infatti fanno bene, poi i giornali se ne sono dimenticati. Volevo un parere da Parenzo su quello che sta facendo Sarkozy in Francia, questo mi interessa. Sulla vicenda dei Rom. Sì, Gaucci, secondo che succede me... Gaucci? Risponde Gaucci, aspetta Parenzo, un miracolo. Pronto? Pronto? Gaucci! Sì, eccomi. Buonasera, come sta? Buonasera a voi. Come bene, sta? Bene. Ma noi la cerchiamo da due settimane e non la troviamo mai. Come mai mi cercate da due settimane? Ma che io sono sempre a disposizione con il telefono. Ma lo so che lei è sempre a disposizione, però ogni volta che noi chiamiamo in diretta, noi ogni tanto la becchiamo lì prima della diretta, lei mi dice sì, d'accordo, ci sentiamo dopo, poi a un certo punto squilla il telefono e non risponde nessuno. E vabbè, lei magari è andato fuori a fare le sue cose. Comunque, eccomi qua. Come sta? Tutto bene? Che tempo fa a Santo Domingo? È qui il tempo è sempre bello. È sempre bello, eh? Ma lei quando rientra? Sì. Pare che l'aspettino a Perugia i magistrati. Quando mi chiamano verrò. Lei è pronto a rispondere ai magistrati sulla vicenda delle case Tulliani e tutto quanto, sì? È certo che sono pronto, ci mancherebbe altro. Anzi, vuole fare una cosa, vuole andare dai magistrati. Io sono a disposizione, qualunque informazione vogliono io gliela fornirò. Parenzo, lo sai che dicono che Gaucci viene manovrato da Berlusconi, sai una cosa che dicono? Ci vogliamo fare rispondere? Assolutamente falso, Berlusconi non mi ha mai telefonato per questa vicenda, non mi ha mai detto niente, io non so niente, io sto difendendo i miei diritti perché loro sfacciatamente continuano a dire che hanno dato i soldi a me quando sono io che ho dato i soldi a loro, ho dato a loro le case, ho dato a loro tutto. Sta parlando dei le case per quella famosa ricerca. Era un impiegato, mi poteva dare i miliardi a me. Lei ha detto pure che hanno dei morti di fame, addirittura. No, io questo non l'ho detto, non ho detto che erano morti di fame, era gente che il padre lavorava e quindi andavano avanti, morti di fame non l'ho detto mai. No, perché c'è una frase qui sul libro, ma lasciamo perdere questi dettagli. Senta, ma lei quanti soldi vuole indietro dai Tulliani? Io non voglio niente, loro debbono dare i soldi al fisco come li ho dati io. Loro hanno preso 3 miliardi e 100 milioni da me, di cui 1 miliardo e 100 per la vincita al Superenalotto che ho fatto io, gli ho dato la metà, 1 miliardo e 100. Un miliardo che ho dato, che dovevo dare a Frank Stella che mi aveva fatto un favore politico con l'amministrazione Bush, e un altro miliardo che gli ho regalato. Loro hanno preso 3 miliardi e 100 milioni da me e li tengo lì, oltre a tante altre cose, oltre alle macchine, oltre ai terreni che gli ho comprato e compagnia bella. Quindi loro li devono restituire al fisco come li ho restituiti io. E perché li devono restituire al fisco? Se lei gliel'ha dati. Perché sono gente ingrata che dice che loro hanno dato i soldi a me. Quando il padre era un impiegato, io ero un miliardario, che avevo bisogno dei soldi loro, io. E dove l'hanno fatte tutte quelle fortune che hanno adesso? Appartamenti, ville, case, macchine e compagnia bella. Tutto da me hanno avuto. Tutto da me e io non ho chiesto niente. Loro hanno rivendicato che hanno dato i soldi a me, si figuri. No, ho capito, però Gaucci, io voglio capire, siccome lei li ha dati di sua spontanea volontà, non è che è stato costretto, cosa c'entra il fisco in questo? No, li ho dati perché mi sono sentito di darli, ma non che adesso devono dire che loro hanno dato i soldi a me. Allora mettiamo le cose in chiaro, che il fisco faccia il suo dovere come sa fare, recuperi tutti i soldi che deve recuperare e quindi si finisce la storia. Cioè, Parenzo, hai capito? Alla fine Gaucci vuole che il fisco indaghi sulle fortune della sui soldi della famiglia Tulliani, capito? Ho saputo che sta indagando, indagasse. La verità è questa, i soldi glieli ho dati io, se li deve recuperare li recuperasse. Parenzo! Lei gliel'ha regalati, adesso può auspicare che il fisco faccia il suo dovere, però sembra un po' una vendetta vista così, no? Si vuole vendicare? No, siccome loro il loro dovere non lo fanno, dicono che sono stati loro a dare i soldi a me quando il padre era un impiegato, che cosa avevano loro? Niente. Adesso sono ricchi perché hanno appartamenti, hanno ville, hanno macchine, hanno tutto quello che gli ho comprato io, terreni, macchine. Ma nuove, le hanno fatto un po' da prestanome, qualcuno la BMW ha detto, no? Al padre, e i terreni a Capranica, tutti pagati da me, a Capranica, Gennarzano e Caprarola. Ma lei perché gliel'ha dati questi soldi? Perché gliel'ha dati i terreni? Qualcuno ha detto che lei l'ha fatto per darli. Se il fisco adesso gli chiede indietro queste cose, che ci posso fare io? Per cui lei non rivendica i soldi da loro? Io non voglio niente, è il fisco che sta indagando per recuperare questi soldi, indagasse, facesse il suo dovere. No, perché noi fino all'altro giorno avevamo capito che lei voleva indietro qualcosa, invece non gliene frega niente. No, a me non me ne frega niente, io non voglio niente, so che il fisco sta indagando su queste proprietà che loro hanno preso da me. Il fisco, siccome doveva ancora recuperare dei soldi, perché con me li ha recuperati, adesso se li devono recuperare anche con loro, lo facessero. Senta, Gaucci, ma del fratello di Elisabetta Tulliani, lei cosa mi dice di Giancarlo Tulliani? Che tipo è? Ma è un ragazzo un po' così, sui generis. In che senso? Ma che senso? È un ragazzo che va solo per racimolare quello che vuole e basta. Non è che sia, non è che sia una cima. Ma sono stati presentati i Tulliani come una famiglia che condiziona pesantemente Gianfranco Fini, eccetera. Lei ci crede a tutto questo? Di Gianfranco Fini io non lo so. Non lo so perché sotto certi aspetti, a me sotto certi aspetti mi hanno condizionato perché in quel momento ero innamorato di lei e ho dato più di quello che meritassero. Adesso siccome si stanno comportando male, stanno addirittura rivendicando cose che non sono vere, che il Superenalotto l'hanno vinto loro, che hanno dato i soldi a me, invece è tutto falso perché il Superenalotto l'ho vinto io, gli ho dato la metà loro, ho versato i soldi nel mio conto corrente, quindi sono tutte cose che stanno mettendo in giro per farsi belli, e quando uno si vuole fare bello con le menzogne deve pagare. Senta, ma della casa di Monte Carlo lei che sa? Io della casa di Monte Carlo l'ho sentito dai giornali, non ne sapevo niente. Ma lei cosa pensa? Che Giancarlo Tulliani sia così furbo magari da avere raggirato Gianfranco Fini su questo? Io non lo so perché io non li ho più frequentati, non li sento più, non li vedo più, quindi non so, queste vicende qui non le conosco. Senti, Parenzo, che domanda vuoi fare? Gauci, come intanto quando torna in Italia? Giusto, così diamo anche un'informazione. No, io tra una quindicina di giorni sono in Italia. Ma ha già una convocazione formale da un magistrato o no su questa vicenda? Non ho nessuna convocazione, quando l'avrò mi presenterò perché non ho nulla da nascondere. Beh, non può saperlo perché magari gliel'hanno notificata a casa e lui è lì e quindi non può saperlo ancora. Prego? No, Dio, magari non può magari sapere. Gliel'hanno già notificata a casa attraverso i suoi avvocati e lei ancora non lo sa. Vabbè, ma poi non mi pare preoccupato dai magistrati, l'ha voluto lui l'intervento dei magistrati sulla vicenda? Assolutamente, i magistrati loro fanno il loro dovere e io rispondo a quello che mi chiederanno. Ma secondo lei la vicenda della casa è una vicenda politica o gossip? Quale casa? A Monte Carlo. La casa a Monte Carlo. Io la casa di Monte Carlo non ne so niente. L'ho sentito dai giornali. No, una valutazione sua, cioè è una vicenda politica o una vicenda di gossip o una vicenda seria secondo lei? Io non le posso rispondere perché questa vicenda non la conosco. Io le vicende mie gli posso rispondere su tutto, le altre vicende non le conosco. Senta, ma in tutto quanti soldi lei avrebbe regalato alla famiglia Tulliani tra una cosa e l'altra? Allora, diciamo, gli ho dato 1.100.000 per quando ho vinto il Superenalotto. Poi? Quindi la metà della vincita. All'inizio loro gli ho dovuto comprare la Porsche al fratello e la BMW al padre. Poi? Poi dopo gli ho dato 1.000.000.000 per mandare a Frank Stella in America, che mi aveva fatto un favore politico con l'amministrazione Bush, e quindi ho mandato 1.000.000.000 tramite loro e non gliel'hanno dato. Poi? Frank Stella se l'è presa con me, gli ho detto, dico, scusa, sono amici tuoi, io l'ho dati a loro per mandarteli a te, se non te li hanno dati che c'entro io? E quante case poi? Le case le hanno comprate con, poi gli ho dato un altro 1.000.000.000. Così io gli ho dato a loro proprio complessivamente ai genitori 3.100.000.000 e ci hanno comprato quello che voi sapete. Ha intestato qualche casa, ha intestato qualche immobile alla famiglia Tulliani o no? No, gli ho intestato dei terreni che ho comprato. Le case se le sono comprate con questi 3.100.000.000. Ho capito. Prima Parenzo chiedeva, ma non è che in qualche caso insomma l'ha fatto anche per così, per usarli come prestanome, diciamo, o no? No, loro li hanno presi per prenderli. Anche se era prestanome, se li tenevano, come sono abituati a fare. Va bene, Parenzo. Comunque, per quanto riguarda i terreni, sono questi che ho comprato direttamente io con i soldi, oltre alle macchine, parecchi ettari di terreni, circa una ventina di ettari di terreni tra Genazzano, Capranica e Caprarola. Va bene, insomma, lei vuole solo il fisco, che il fisco intervenga su questa vicenda, va bene? Il fisco fa i suoi passi, mi sembra che già si sia mosso, quindi faccia i suoi passi e recuperi quello che ritiene opportuno recuperare secondo la legge. Io che devo fare? Io non ho fatto niente, loro che hanno criticato me, sono loro che hanno detto tante menzogne, che hanno dato i soldi a me, si figuri che hanno dato i soldi a me, che io ero un miliardario. Grazie Gaucci, buona serata, anzi buona giornata. Tante perché... cose, arrivederla. Parenzo, abbiamo chiuso in bellezza con Gaucci. Siamo qui dopo tre settimane. Non ero preparato. Anch'io non ero molto preparato. Comunque, siamo in ritardo in maniera pazzesca. Quattro minuti. Abbiamo sforato di 4 minuti. Vai da tua figlia. Noi ci sentiamo lunedì 30. Io per una settimana me ne vado. Ciao. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupare!